Chi è Berlusconi? È un messia mandato da chi? Da Dio, che sta salvando l'Italia. E dobbiamo ringraziare che in questo millennio c'è Berlusconi, se no altrimenti eravamo fregati tutti. Sì, perché forse dobbiamo aspettare ancora un altro millennio, mille anni, che arrivi un'altra persona come Berlusconi. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Mani al mio risveglio, io prendo un bel martello e spacco tutto. Vado di fuori, se c'è il castello, chiuditi dentro. E che notizie ci sono? Vi sentite solo parlare voi stessi. Che notizie ci sono? E in questo siete tutti e due coglioni, carissimi, ma due coglioni. A che punto è questa candidatura della di Emma? Allora, da 15 anni sì. Emma ha un sostegno, direi, pubblicitario. Che sì. Si è sempre rinnovato ed è sì. Confermato. Beh, plebiscitario, avete preso 0,3%. Plebiscitario. No, vabbè, guarda, no, arrivederci. No, Marco, dai! No, basta, perché? Basta. Consenso plebiscitario, che c'entra? No. Ma dai, ho capito, ma non si può fare un'obiezione, se n'è andato. Solare l'energia della metropolitana. Non la invitano a mai. A questo punto. Non la invitano mai. Dice. A questo punto, dico, allora, è un fatto. Lei è, non la invitano come voi dite mai, ridendo sì, su sta faccia. Secondo me non è vero. Pena, ma, mi dispiace, ma non è vero. Bene. Ma non è vero che non la invitano. Schifo. Ma perché? Fai ma, schifo. Però abbiamo semplicemente detto che tutto sommato. Allora, sì, le presenze guarda dei... adesso tu interpreti quello che dice lui, poi lui interpreta. Ma quello. Non è vero. Allora voglio dare una notizia. Oh. Dici. Finalmente. No, finalmente. Avete ragliato invece di fare gli ma è stronzi. Vero che Mastella e Segni finalmente. Sono favorevoli? Finalmente. È vero che Mastella e Segni sono favorevoli alla Bonino? È una domanda. No, è vero che Mastella e Segni sono favorevoli alla Bonino? Cazzi loro! Per capire. Allora! No, allora. Ma io voglio... Ma il 99 era, Marco! Ma che fa noi? Allora, ma questo punto, hai distrutto la radio. Cosa succede? Ma aspetta, non a questo punto, cosa succede? Posso parlare? Ma no, ma hai distrutto la radio. No, togli il microfono. Ma no, sì, che poi no. Allora, ma devi pagare i danni. Allora, sapete cosa accade? Si va a votare. Cioè io vi dico, non so se potete... Sta distruggendo tutto, ha buttato giù il microfono. Sono 1043 elettori. Che spacco tutto. Datemi la nota del Quirinale, allora, su Unita. Datemi la nota su Unita, allora, del Quirinale. Voglio dire, mi fai fare una, parlare fare di una un no? Appello. Ma che appello? Mi fai Radio Radicale di appelli? Un appello non è, di un minuto. C'hai una radio a disposizione. Ma non è Radio comunità, Londra. Alla comunità penitenziaria. Ma non me ne frega un cazzo. No, dai. No, dai, non me ne frega un cazzo. No, Marco! Ma perché? No! A te, no, c'è... Ma scusa, ma no, io dico che ragazzi, mandate un po' di musica, dai. Eccolo qui il pacifista Marco Pannella nella sua esibizione alla Zanzara. Un frammento di video lo potete vedere sul sito di Radio 24. Ragazzi, la premessa per l'abbonino al Quirinale, questa qua. Se ci fosse l'abbonino al Quirinale, Pannella ogni giorno. Vabbè, lasciamo perdere, va. Parenzo, lasciamo perdere. No, dai, questo sì, no. Sì, sì, sì, sì, lo dico chiaro e forte. No, lo io dico, questo non lo dico. Lo dico chiaro e forte. Volete io l'abbonino questo... al Quirinale? Beccatevi pure Pannella. No, ma sì. Pannella. Volete l'abbonino al Quirinale? Ma beccatevi no. Pure Pannella. Ma Pannella le sarebbe educatissimo. Il con paci, il paci finto. Il paci finto. No, ma lì è stato Gandiano, ma un po' violento. Ma quale Gandiano? Ma... Gandiano, ma dov'è Gandhi in questo no, caso? Scusa. È stato poco Gandiano lì. Aspetta, il lapidario Gasparri. Che c'entra Gasparri? Aspetta, guarda che giudizio lapidario. Il tempo scorre impietoso. Fatemi risentire. Il tempo scorre impietoso. Ragazzi, l'ha detto Gasparri, ma è la verità. Cioè. e qualsiasi militante radicale, qualsiasi esponente radicale o qualsiasi persona che ha affetto nei confronti dei radicali sa benissimo che questa è l'analisi corretta. Il tempo scorre impietoso. Voglio fare il bagno. Poi ti abbraccio fortissimo, Marco. Però i fatti sono fatti, eh? No, i fatti sono fatti. Certo. Punto e basta. Va bene, ma di che vogliamo parlare? Perdonarlo. Aspetta, no, noi perdoniamo tutti, per carità. Allora, c'è qualcuno che ci vuole in galera. Questo è grave. Ci vuole condannati, denunciati per la storia dello scherzo a Onida. Partiamo da Buttiglione. Io prima di tutto voglio osservare come un comportamento così, mi spiace per gli amici che sono tanto bravi della Zanzara, è un comportamento indegno, sbagliatissimo. Perché? Perché non si può mettere in onda dei commenti i quali sono stati dati dentro un altro contesto. Ognuno di noi dice un mare di sciocchezze quando parla con gli amici, cose che non pensa davvero. Poi tu lo registri e queste cose vengono fuori come se fossero l'espressione matura di quello che uno pensa e vuole. Enrico Vaime, piccoli cialtroni che ingannano. Pensate un po', uno dei fondatori di generi radiofonici, eccetera, eccetera. Vaime, sentite. Siete dei piccoli cialtroni che con l'inganno cercate di farvi scoperchiare delle inutili pentole dentro le quali c'è un brodo che conosciamo benissimo. Quindi non rompeteci le scatole con questa sagacia che io trovo detestabile. Comunque, sagacia detestabile, per carità, poi ognuno ha le sue opinioni. Gad Lerner scrive che noi perseguiamo un itinerario entomologico di abbruttimento dell'umano, di ridicolizzazione dell'impegno, al termine del quale rimane solo il linguaggio della forza. E spacco tu. Poi c'è Michele Serra di Oggi che dice che sono stati commessi reati gravissimi, eccetera, eccetera. Allora, voglio dire a tutte queste persone che va bene, per carità, accettiamo tutte le critiche, però non ho sentito una parola che sia una parola, anzi, elogi, avete fatto bene, la verità, è venuto fuori il vero Cosentino, il vero Maccari, il vero Binismaghi, quando il finto Bossi interpretato da Parenzo smerdava i politici di centrodestra, esatto. Li smerdava, ha smerdato Cosentino, ha smerdato come si chiama, Maccari, che non è un politico ma era direttore del TG1 messo dal centrodestra, ha smerdato Binismaghi che in quel momento aveva un conflitto con Berlusconi e indirettamente questa cosa ha messo in difficoltà Berlusconi. All'epoca nessuno si è indignato, nessuno, anche quando è stato smerdato un grillino adesso recentemente da un finto Vendola che abbiamo fatto noi, nessuno ha alzato il dito per dire bravo. Beh, però è stata violata la privacy. Siccome viene toccato il bravissimo Valerio Onida, che però è amico di moltissimi commentatori italiani, soprattutto milanesi, adesso succede l'inferno alla privacy, eccetera. Siete ipocriti. Tutto cemento, faccio finire l'inquinamento, io spacco tutto cemento. Abbiamo già un ospite, però no, voglio... ma c'è anche di aspetta più, aspetta dopo questo, poi lo riprenderemo. Abbiamo... io all'epoca di Bossi ho ricevuto telefonate da politici del centrosinistra. Bravo. Che mi dicevano no questo volevo dire subito, che dicevano bella la roba con Bossi, e ora voglio dire per una cosa come questa invece spalano valangate di letame. Vabbè, non ne parliamo. 800 24 00 24, è con noi Alessandra Mussolini, buonasera. Ma perché vi arrabbiate? No, ma chi si arrabbia? Ma siete stati meravigliosi. Scusatemi, non vi dovete arrabbiare. Ma in che senso meravigliosi? È una cosa, ma perché avete smascherato quello che in realtà è, che per tutti gli italiani, cioè che questi saggi non servono assolutamente a niente, e avete fatto emergere le verità. Perché non me l'avete fatta anche a me quella finta telefonata di Mirta Merlino? Però se certo. Una persona è lineare e dice quello che pensa sempre, come faccio ad esempio io, sì, certo. Va tutto bene. Se invece uno è falso, certo. Che fa finta di dire che i saggi servono perché servono, in realtà non servono a niente, servono per perdere tempo. E l'ha detto questa pure lui. Certo. E l'ha detto lui. No, allora in realtà, voi invece... Sentendo, no, ho capito perché No, no, ma sì. La Mussolini ha ricordato un episodio che sì, è persino io non me lo no, noi eravamo in diretta, eravamo in diretta, sì, con Mirta Merlino, ricordo. Abbiamo fatto il numero di cellulare della con Mussolini Mirta Merlino, perché c'era stata che cosa? Uno scazzo molto forte durante la trasmissione della Merlino con Andrea Scanzi. Del Fatto Quotidiano, esatto. Sì, con Andrea Scanzi. Noi però io ho ripetuto al telefono le stesse cose che avrei detto alla vera, alla fine. Ma era vera o era finta? No, era vera la Mirta Merlino, che finta. Era verissima in quel caso. Ma io non ci credo. Ma come no? Era vera. L'avete fatta voi. Ma comunque, no, a me non me ne importa. Io so che ho detto le cose che mi sentivo di dire, punto. Questa è tutta una buffonata, è una messa in scena, è un teatrino. E se voi ogni tanto smascherate queste cose, va bene. Ma perché lo streaming di Grillo non è in fondo la stessa cosa? Ma perché, scusatemi, la telefonata che avete fatto di Unida non è ancora meno grave di quel patetico streaming tra Bersani e Grillini? Ma scusate, perché si indignano contro di voi? È una cosa regolare. Si indignano, si indignano perché ovviamente perché? È stato colpito. Se fosse stato colpito, se io fosse stato, lo conoscevo. Se fosse stato come non lo conosceva? Vabbè, io non lo conosco, ma chi lo conosce? È uno che è stato. Dice gli italiani, adesso si dovrebbe. Ma gli italiani lo conoscono tutti. Non lo conosce nessuno, dice lei. Ma io non lo conosco, l'ho conosciuto adesso. Vabbè, lo conoscono molti intellettuali, in particolare milanese. È stato candidato col centrosinistra a Milano. Per le primarie, che Quagliariello, a seguito di queste affermazioni, non tanto sul fatto di perdere tempo, che lo sanno tutti quanto su Berlusconi, ha detto: dovrei dimettermi. Io direi, io credo. Sì, però poi alla fine, come lei sa, tutto è rientrato. Senta, ma la Carfagna che ha detto la Bonino al Quirinale? La Bonino, io sono d'accordo anche, purtroppo stasera sono d'accordo con voi. Cioè, purtroppo, no, con noi no, io non ho detto Bonino, niente. La Bonino ha come scimmia sulla spalla Pannella. Quindi noi ci troviamo Pannella con la parrucca bionda. Non si può, perché la Bonino non si è mai in tutti questi anni affrancata da Pannella. Ah, è questa io la cosa. Scarterei la Bonino, pure se la rispetto, figuriamoci, per le sue battaglie e tutto, ma no, il Pannella è troppo presente, ancora, non la molla, non molla l'osso. Cioè, com'è la storia della parrucca, non ho capito? Cioè, praticamente, noi come se se votiamo la Bonino, ritroviamo Pannella con la parrucca bionda al Quirinale, che è una cosa drammatica, che gli esce fuori il codino bianco, cioè una cosa drammatica, è veramente l'ultima cosa che l'Italia può sopportare in questo anno. Ma fa bene Brunetta, bene Brunetta a bacchettarvi quando dice: no, voi non dovete esprimervi sui candidati, ha sentito che ha detto. Vabbè, Brunetta si sa il carattere che ha, Brunetta è così, Brunetta, però pure lui dice quello che pensa, non se le tiene. No, infatti, non capisco però noi perché le donne in particolare si rivolge alle donne dicendo dovete stare zitte, perché non l'ha fatto lo stesso con gli uomini, signor Brunetta? Ma perché i giudici sono tutti uomini, che io ho dovuto dire appena hanno fatto l'elenco di questi babbioni? Questi sono babbioni, io ho detto. Ma come babbioni? Non so, pure Quagliariello è babbione, scusi. Ma sono tutti babbioni, arrivano là, diventano babbioni automaticamente. E quindi io ho dovuto dire, vuol dire che nel nostro paese non ci sono donne sagge. Ma è una cosa vergognosa. Quindi, traffico, torniamo subito. Stiamo a parlare. Traffico 800 24 0024. Il tempo scorre impietoso. Strade in diretta. Sulla 12 Genova-Livorno si formano code per un incidente tra Rapallo e Lavagna in direzione Livorno. Molto trafficata la 4 verso Padova, con code a tratti tra Ospitaletto e Desenzano. Proseguendo verso est, code per un camion in avaria fra la tangenziale di Mestre e San Donato di Piave in direzione Trieste. Siamo adesso sull'Autosole, 1 chilometro di coda tra Calenzano e Barberino verso Bologna per un veicolo in avaria. Molto trafficata poi la zona di Modena e proseguendo verso nord rallentamenti per un cantiere tra Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza. Infine sulla 22 del Brennero code di circa 6 chilometri per un cantiere tra gli svincoli di Bolzano in direzione dell'Austria. È tutto, il prossimo appuntamento tra mezz'ora. La Zanzara. Unida è ipocrita come tante altre persone, fa una cosa e ne pensa un'altra. C'è stato un errore, è entrato Gasparri, non manco ce l'aspettavamo. Sì, non si capisce. Al volo è partito così, senza colpo ferire. Siamo qui 800 24 00 24. Senta, ma è possibile lei che è una fiera avversaria del PD, ma non le farebbe un po' impressione convolare a nozze insieme al Partito Democratico? No, è l'unica cosa, solo che Bersani è una persona che sta tenendo in scacco l'Italia per la sua ostinazione. Cioè lei con la Bindi, lei con la Bindi insieme. Ma che dobbiamo fare? Ma gli italiani hanno scelto così la triade. Grillo si è messo fuori, che sta facendo quest'altra. Hanno deportato quei pullman, ha visto? Hanno preso questi poveracci che dormono, perché quelli dormono. Che senso dormono? Dormono e ci fanno i complimenti. Dormono e sono stanchi, non ce la fanno più. Perché non ce la fanno? Grillo li massacra di mail, di web, di cose. Allora loro quando vanno in commissione dormono. Ma come dormono? Che vuol dire dormono? Ma li vedo io che dormono. Ah, dormono proprio così? Dormono, non ce la fanno a stare in piedi, perché Grillo e il Casaleggio li massacrano. E poi ci fanno un sacco di complimenti a noi al PD. Ma siete bravi. Come fanno un sacco di complimenti? Ma chi? Ma come? I grillini. Ma io vi sto dicendo quello che loro fanno realmente. A parte che loro avevano detto no, voi ci dovete chiamare i cittadini, ve lo ricordate o me lo ricordo solo? Sì, io? Come no, sì. E devi vedere come si alzano in piedi quando li chiamano senatori. Ah sì? È tutta una finta, già si sono abituati. Comunque sono molto addormentati, Sono stanchi di Grillo, e di Casaleggio, non ce la fanno più. Grillo pensava oggi di metterli da una parte, di farli andare nel pullman e di non farli parlare. Invece c'è stato uno sproloquio di Vito Crimi che ha parlato per mezz'ora. Ecco, ma questo Crimi come lo vede lei che è al Senato, insieme a lui? Crimi ha fatto una figuraccia perché questa senatrice. No, perché ve lo dico un'altra cosa. Ah, che donne. Ci dice? Sì. Perché c'è questa senatrice che si vuole dimettere. Ah, sì, Mongili. Sì, la sì. Mangini. Stanno facendo dimettere, non la fanno andare al Senato. Quindi io mi meraviglio del fatto che loro vogliono tutto web, tutto streaming, tutto quanto all'esterno, invece questa non la fanno neanche venire al Senato. Ma è molto grave. Sì, le dimissioni sono state respinte. Sono lettere in bianco, come quando le donne sono in stato di gravidanza e il datore di lavoro. Vabbè, però non è perché è una donna. Ma no, non è perché è una donna. Perché come? Perché si deve dimettere? Ma no, perché pare che questa qua. Perché pare che questa qua abbia. No, abbia fatto una cordata per essere eletta alle parlamentari là di Grillo. Gli altri no. Ma come le parlamentari? Quello è tutto finto sul web. Si votano tra di loro. Vabbè, comunque il suo ideale per il Quirinale chi è, signor Mussolini? No, non lo dico. No, come non dice che fa? Che risponde agli ordini di Brunetta? È su. Ma perché non c'è un nome, purtroppo? Ma come non c'è un nome? La Castagna al Quirinale. La Castagna. La Castagna sarebbe. Ma lei si è riconciliata con la Carfagna? Io vorrei, sì, certo. Io ma ha visto che quando ha incrociato il suo ex marito manco l'ha salutato? Questo non lo so, non mi fa ma l'ha vista, parlando del Quirinale, passate di no, palla vabbè, siamo fatti così. Di palla in frasca. Siamo fatti così. Mi dica un suo nome, per il Quirinale, cioè Mussolini, il suo ideale. Cioè un Mussolini al Quirinale, sarebbe una cosa incredibile, un Mussolini al Quirinale succederebbe l'inferno, si rende conto? Vedi che sei, perché l'inferno? Beh insomma, adesso diciamola tutta. È un attimino forte, un nome Mussolini allora, al Quirinale. Quello che mi piacerebbe è una donna. Che palle con ste donne però. Oh, ma voi, ma perché ci volete sempre mettere dietro cosa? Basta con ste donne. Ci sono i perché? Ma non è che al Quirinale per forza una donna? Gli uomini durante le consultazioni. Ma com'è? La Bonino è una donna allora? La Bonino è una donna? Ma no, c'è Pannella, quello è finto, dentro c'è Pannella. Ah, dentro c'è Pannella. Non esiste, lei è un involucro, è un guscio. È un guscio, diceva. È un guscio, purtroppo. Ed è lei che l'ha voluto, perché lei poteva avere una grande, infatti quando lei si candidò al Quirinale Illo Tempore 99, lei andava in televisione e lui ci andava 5 volte di più. È una cosa infernale, è uno mediatico che non si capisce. Pannella è lo stalker della Bonino. La Bonino, poverina, non riesce più a toglierselo. Ma ha fatto tanto per questo paese. Ma vorrebbe toglierselo dalla scatola. Ma ha fatto tanto, però deve anche far emancipare le donne che hanno anche dimostrato di potercela fare. Però si deve emancipare lei da Pannella, diciamo, in primis. No, lei si deve emancipare da Pannella, quella è una cosa tragica. Ma e come mai sta roba? È incredibile, è una persona così affermata, così, no? Anche apprezzata all'estero. Perché che ne sai, i rapporti, soggiogata, che ne so io. comunque. Monti l'ha visto? Vabbè, si vede in Quirinale Monti? Ah, Monti è depresso. Al Quirinale, al Senato. Come depresso? Su, come depresso? Monti, no, guardate, scusate, Monti, io vi faccio dietro le quinte. Monti gira per l'aula che è piccola, perché sono abituata alla camera, questa è piccolissima. Sì. Appena dici una cosa lo sanno tutti, è un inferno per me, perché... Sì. Io amo parlare, ma allora tu vedi Monti che gira per il Senato con un cellulare in mano finto, secondo me, che manco ma come finto? No. Finto, fa finta di telefonare, non parla con nessuno, è sempre depresso, è sempre triste, lo credo. Lui non si doveva candidare adesso. Vabbè, insomma, è depresso. Se è voluto candidare, ha preso il 3%. E allora... depresso lui con tutti quanti pure casini e l'ombra di se stesso. Ma altri problemi pare, però non lo so, cioè, dicono. Madonna, dicono, dicunt, dicunt. Ma chi lo vede preoccupato? È depresso pure lui. Comunque, Fini? Fini l'ha visto all'IKEA? Fini è una meraviglia. Cioè? Fini non c'è più. Sì, Fini però ha visto all'IKEA, no? Che è andato all'IKEA pure lui con la, con la signora. Va, va bene. Sì. Se va all'IKEA va bene, se va all'IKEA non va più in Parlamento. Cioè, meglio all'IKEA. Pensa che bello affare che ha fatto a lasciare Berlusconi. Proprio è stato, c'è un'arte divinatoria. Cioè, dal Parlamento all'IKEA, dice lei. Allora, dal Parlamento all'IKEA è tragica, dal presidente della Camera all'IKEA. A fare la spesa con la Tulliani e con le cose. Beh, certo, non è bello. A parte che a me piace andare all'IKEA, però al di là di questo. Però uno dice, tu adesso ha molto tempo disponibile. Ma ha voluto lui tutto questo. Ha voluto tutto, ha fatto una battaglia, ha perso. Vabbè, ho capito. Comunque, a lei questo matrimonio col PD le andrebbe benissimo, dopo tutto il fango che ma ha tirato sul PD, dopo tutte le polemiche, ma dopo tutte le battaglie. Ma dai, a su. Giugno c'è lì, ma che mi importa a me più di quel cioè, è meglio Zanda di Crimi. Allora, lei andrebbe più volentieri Zanda a braccetto con Zanda. Allora, a giugno ci saranno l'IMU. IRAP vabbè, ormai è quello hanno detto che la pressione fiscale, no, quello che c'entra si paga, vabbè, la quella, pressione è normale, fiscale è 52%. Allora non è che arrivate voi bisogna mettersi insieme a fare un governo. Qua non ci sono le commissioni, c'è questa commissione speciale. Ma se lei dovesse scegliere di andare di passare una serata al Senato con un uomo, io adesso per carità, lei è sposata, è tutto regolare, però con andare a con cena Renzi. Fuori no, con Renzi andrebbe? Con Renzi, perché almeno Renzi è una persona che dice quello che pensa, lo dice sempre un po' in ritardo e lui è sempre indifferito. Ma lei lo potrebbe votare? Renzi lo voterebbe lei? No, io credo che Renzi sia un problema per il PD, per noi meno. Vi mette in difficoltà. Però se dovesse scegliere di andare a cena fuori con Crimi con oppure nessuno, con Zanda, no, con chi andrebbe? Con mio marito tranquillamente. Vabbè, però io non sopporto ci fossero due uomini al di fuori del Senato. Due uomini camera. Sulla faccia della terra, signor Crimi o il signor Zanda, con chi andrebbe a cena fuori? Crimi e Zanda, il capogruppo del PD, con chi no, andrebbe? No, vabbè, Crimi, almeno è più fresco politicamente. Sì, poi finisce tutto in rete, Zanda. Però, stia attenta. Poi finisce tutto in rete la cena, stia attenta, non c'è privacy. Ma capirai, con me, io sono sempre in rete, è perché io dico le cose fuori che non dico invece in realtà, ma che scherzate, mi conoscete bene, e che ho paura di fare lo streaming. E tra Bersani e Grillo chi sceglie lei, tra Bersani e Grillo? No, guardi, nessuno dei due. Bersani mi metterebbe di cattivo umore che dovrei prendermi qualche goccia. Perché? No, non è è perché Bersani è sempre arrabbiato, è sempre con la credine, sapeva che io non ce la potrei fare. Dopo la cena ti rimane sullo stomaco, figlio, ma come fai con Bersani tutta la serata? Grillo non lo so, non lo conosco da quel punto di vista. Forse con qualche battuta ti tira su, ma Bersani no, assolutamente. Bersani siete prima in maniera... Non mi fate poi dire che uscirei con Grillo e non con Bersani, perché non uscirei con nessuno dei due. Però Bersani è tragico, Bersani è ansiogeno. Beh, un po' Bersani sì, un po' ti fa sì. diventare matto. Quando fa le conferenze stampa sembra che sta sempre ad aggredire qualcuno. E ci salutiamo così, con questa meravigliosa canzone. Ci salutiamo così. A presto, grazie. Grazie. Allora, adesso dico una cosa molto forte. Barbara Guerra su Twitter, lo dico alle 18.57, Barbara Guerra su Twitter. Ruby, poi interpretate come volete. Ruby ha preso più schizzi di un quadro di Picasso. Si è fatta mezza Milano in 6 mesi. Arrivederci e grazie. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è, pure lo spray a di zanzara mi son messo il piatto. Inizio di Onida, facciamogli sentire a Marco l'inizio di Onida, vieni, vai. Guarda, non me ne fotte un cazzo di sentire Onida. Io voglio semplicemente cercare per un momento sì. di fare tesoro voi stessi di questa mezz'ora. Come non te ne frega un cazzo? Perché non te ne frega un cazzo? Io non devo fare tesoro di nulla, Marco. Che tesoro devo fare? Noi siamo, così noi siamo, ti intervistiamo e tu stai qui. Non è che cioè, non dobbiamo fare tesoro, non è che c'è la lezione. Volevamo farti sentire lezione, Onida, però ne parliamo dopo. Hai sentito Onida tu? Perché non gli interessa. Non te ne frega un cazzo, va bene. Ripeti anche. Ho sentito sto cazzo. Cioè, ho sentito ma, te. Ma abbiamo capito, non è che io faccio. Sono il conduttore, cazzo, di questa trasmissione, Marco! A fronte del 66% sì, però è successo degli, degli italiani, l'1,4%, cioè sì. 15, non gliene frega un cazzo a nessuno. 15 parlamentari, 15 parlamentari su 1040, perché? Perché assieme è tutto distrutto. Assieme è Silvio all'altro, prendila, scherzala, ti ho beccato. Guarda, la pubblicità sarà l'unico momento di riposo per gli ascoltatori. Beh, certo, dopo, beh, tuo, certo. Dopo le tue follie, sicuramente. Siamo, non siamo riusciti a interloquire, già hai fatto un fiume. No, ha spaccato tutto. Cioè, io qua mi ha fatto male alla mano, cioè mi ha ferito. Io chiamo l'avvocato, te lo dico, eh. Cioè, chiamo l'avvocato. No, allora, ma spacco anche la faccia. Ma che cacchio, ma sei impazzito? Chiama anche, la anche per l'avvocato per la faccia. Ma sei impazzito, ma cioè, sei veramente impazzito. Ma no, sono rinsavito più che mai. Io non ho capito se vuoi ancora bene a Pannella oppure no. Ma io moltissimo, cioè per me la reazione in consulta folle e delirante che ha avuto non cambia l'opinione sui radicali, su Marco Pannella, su Emma Bonino, su Olivier Dupuy, su Maurizio Turco, sulla Bernardini, su tutta la storia Radi, su Verduca, su tutta vabbè, la adesso storia basta, Cappato, basta, basta elencare. Welby, tutta la storia. Guarda radicale. Un attimo che c'è Andro Mercù su Rete 4, aspetta, aspetta. No, onestamente no, io penso che poi onestamente uno scherzo telefonico, una denuncia mi sembrerebbe, insomma. L'Italia è un popolo spiritoso, gli italiani sono gente spiritosa, mi auguro che continuino su questa falsariga, voglio dire. Senta, ma il prossimo scherzo quale sarà? Qual è la sua specialità? Vabbè, ma se glielo vado a dire, però... E noi ci proviamo. Diciamo che sta bollendo qualcosa in pentola, sempre con Giuseppe Cruciani, sì sì sì. Va bene, allora ancora qualcosa. Allora seguiremo la zanzara. La ringraziamo per essere stato questa sera con noi, averci strappato un sorriso, ma noi grazie andiamo. Grazie a voi. Grazie a voi e saluto anche il mio imitatore Andro Mercù. Grazie professoressa, buonasera. Titoli del TG3, bisogna ridere su certe cose, per carità, poi vanno a toccare delle cose anche importanti, dei processi importanti, i famosi saggi, gli equilibri costituzionali, però insomma, se avesse detto, diciamo la verità, Parenzo, se avesse detto delle cose pesantissime su qualcuno, noi non avremmo mandato in onda nulla. Ma non c'è dubbio. Cioè, ma... ci sono dei giudizi politici che sono stati dati, dunque abbiamo ritenuto normale mettere in onda uno scherzo telefonico. È evidente che se avesse detto Napolitano è una testa di quell'altro è un... Ma ovvio! Ma, non mica ci esponiamo no, in questo modo. Ma c'è di più invece. Invece questo scherzo, questo divertissement, questa bischerata... ha dimostrato quanto è saggio Onida, perché ha detto delle cose saggissime, cioè che Berlusconi alla sua età è un anziano, doveva andare a casa, che una cosa più saggia di quella non poteva dirla nessuno, è saggio, ha ragione. Titoli TG3, Bianca Berlinguer. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Grillo riunisce i suoi, dissenso legittimo, non dobbiamo dividerci, se ci saranno le larghe intese la gente prenderà i bastoni. Renzi insiste, basta perdere tempo, la partita va giocata e parte l'attacco al quotidiano L'Unità. Bersani, c'è un'emergenza sociale, bisogna cambiare. Berlusconi, i sondaggi dicono che posso vincere, ma il voto non è la nostra prima opzione, ora serve un governo forte. Titoli di Stato per pagare i debiti della pubblica amministrazione, 40 miliardi in due anni, così nella bozza del decreto che il governo varerà domani. Coppia si uccide nelle Marche per problemi economici, avevano rifiutato i servizi sociali, si toglie la vita anche il fratello della donna. Pyongyang colloca due missili a medio raggio sulle rampe di lancio lungo la costa orientale ed esorta le ambasciate straniere a lasciare il paese. 4 anni fa il terremoto che ha distrutto L'Aquila provocando 309 vittime, tra loro anche Vassili, uno studente greco, al TG3 il ricordo della sorella. Stefano da Bologna, buonasera Stefano, eccoci. Buonasera Cozzani, complimenti. Ieri sera chiamo per Pannella, l'intervento di Pannella. Io sottoscrivo, ha fatto benissimo. A fare cosa, scusi? A spaccarle il dito lei e poi avrei spaccato una mano a Parenzo. Bravo. Stefano, perché non viene direttamente a fare queste cose allora, invece di affidarsi a Pannella, scusi? No, ma siccome io do un giudizio, io non sono un violento, però ha fatto bene. Non è un violento? Non è un violento, però ha fatto bene a spaccare tutto. Sì, voglio dire, ma no, ha fatto bene, dai. Tu sei un paraculo, l'altro è da ricoverare. Sì. Tu sei simpatico, fai una bella trasmissione. Ma veramente se l'è preso, veramente se l'è presa con me, signor Pannella, non con Parenzo. Sì, beh, vabbè, comunque io parlo poi degli interventi generali suoi, ecco. Io vabbè, ha fatto bene a scatenarsi, ha fatto bene a sbroccare, ha fatto bene a picchiarci. Sì, non l'avete lasciato parlare. L'ultima cosa... Scusi, lei lo sa qual è il metro di Pannella sui tempi radiofonici o sui tempi televisivi? Quando finisce il suo ragionamento, che può durare anche 4, 5, 6, 7, talvolta 10 minuti, allora uno forse ha diritto di dire scusi Pannella, posso fare... Sì, aspetta, però devo finire questo ragionamento e attacca di nuovo a 10 minuti. Ma tu lo sai, lo conosci. Dai, bene, su, ma è insopportabile questa cosa qui. È peggio di Grillo da questo punto di vista. Peggio di Grillo... Diciamola tutta, dai. Aspetti, dai. Aspetti un attimo, Stefano, aspetti. Devo dire ancora una volta grazie, perché forse dobbiamo fare le scuse al presidente Napolitano, caro David. Per quello che abbiamo fatto, per lo scherzo a Onida. Io mi alzo in piedi, cioè, quando sento questa musica. Alzati in piedi, infatti. No, scuse per non... Ripeto, scuse perché abbiamo provocato, non c'è dubbio. Poi ci hanno raccontato ieri un incidente istituzionale molto pesante, diciamola tutta. Ieri, a un certo punto, il presidente Napolitano ha avuto una specie di... No, di così ci hanno riferito, una specie di stranguglio quasi. Beh, adesso questo lo sai tu, io non ho detto nulla, però insomma no, ha avuto un sussulto, chiamiamolo così, un sussulto. Esatto, però siccome ci conosce, siccome abbiamo un rapporto, adesso per un paio di minuti ci ha dato udienza e per fortuna c'è. Sì, presidente? Il mio saluto a voi, caro Cruciani. E beh, allora grazie, insomma, grazie. Dalle parole che sento non è arrabbiato con noi, allora proprio è più arrabbiato con Onido o più arrabbiato con noi? Non ho capito bene. Esattamente, io non credo, ma ci rendiamo conto che questo signore è stato presidente della Corte Costituzionale. Sì. Ma ora io mi domando, ma se lo scherzo glielo facevate allora, che succedeva, questo che si inventava? Vabbè. Non lo so, quello se allora l'ha nominato lei come saggio. L'ha nominato lei come saggio, scusi. Mica noi, scusi. Veramente. Beh, sì, l'ha nominato. Beh, perché sì, lei è fino a prova contraria. L'ha nominato. Allora devo dire che il professor Onida non è l'unico rimbecillito. Adesso non ci permettiamo assolutamente. Ma voglio capire, lei quando ha saputo di questa notizia, presidente, cioè di quello che ha detto Onida in questo scherzo, eccetera, come ha reagito? Ecco, insomma, quando ho provato stupore, sconcerto istituzionale, sì. Devo dire anche una certa amarezza e soprattutto mi sono chiesto come è venuto in mente ai miei consiglieri di suggerirmi il nome del professore. Ecco. Saggi. Io avrei avuto qualche dubbio forse su Quagliariello. Sì, però... Ora mi aspetto che, non lo so, Carlo Rubbia chiami Quagliariello e questo si inventi qualcosa. O non lo so, avremo Zichicchi che chiama Mario Mauro. Non lo so, adesso questo... Ricorda Cruciani, sì. Io le dissi... la confusione nemica della democrazia. Eh beh, sì. Eh beh, questo poi è questo un po' è vero, non c'è dubbio. Quindi professori, beh, studiosi, in fondo tutta gente anziana, sì, che ha dei limiti. Beh, anche lei, Presidente, però devo dire che è più lucido di questi qua, mi sembra più lucido. Lei non cadrebbe mai in uno scherzo del genere, cioè. Ma assolutamente no, assolutamente no. Mi avesse detto c'è in linea la Montalcini, avrei subito ricordato che è scomparsa, ad esempio. Beh sì, certo, appunto. Questo è abbastanza chiaro. Margherita Hack, non avevo certezza, ma... Ma poi lei ha dei filtri, non è che risponde al cellulare direttamente, Presidente? Rispondo quando, diciamo, che abbiamo un cellulare io e la signora Clio, sul quale... Uno, sì, in due ne avete? Eh beh sì, certo, risponde sempre la signora Clio. Ma uno in due ne hanno, scusa. Beh sì, certo, uno in due, metti in dubbio questa abbiamo, cosa. Abbiamo, come sapete, ridotto le spese del Quirinale. Sì, beh certo. Abbiamo deciso di agire in questo modo. Comunque io provo, ripeto, amarezza e anche un poco di risentimento verso, diciamo, lo sbeffeggio istituzionale che quello... ha creato, ma voi siete stati, devo dire, arguti e spiritosi. Sì, meno male, abbiamo la soluzione papale, la soluzione presidenziale. Presidente, possiamo stare tranquilli, sì? Potete stare tranquilli, non siete voi il bersaglio della mia reazione. Infatti oggi giravo per i giardini del Quirinale, sì, cercando un nodoso bastone. Ah, ecco, ma per chi questo bastone? Questo lo lascio immaginare. Beh, per carità. Non voglio creare. Ecco, ma che cosa ha detto lei, per concludere, proprio una parola che ha detto forte al, al professor Onida? Cosa gli ha detto? Stai più attento al telefono? Ma gli ha dato una pacca sulle spalle? Ha detto no, può succedere. Devo dire che con rispetto e conoscenza pluriennale, con quella, anche quell'amicizia che ci lega, sì, mi sono quindi consentito di prendere in prestito, diciamo, parole che il signor Grillo ha usato ultimamente. Cioè? Beh, ora le lascio immaginare. Ah, lei dice la parola quella proprio principe, no? La parola principe. Avrei anche avuto altri epiteti e motteggi napoletani che lascio alla fantasia, sì, degli italiani, certo, tanto cari e tanto legati alle tradizioni popolari. Vabbè, cioè, Presidente, grazie. Non ha accennato ieri sera, poi diciamo così, no, dalla rabbia. Ieri sera dalla rabbia ho messo a bollire 4 chili, sì, di cozze, sì, e le abbiamo finite. Io 4 chili di cozze, la signora Clio 18 sigarette. Beh, un po' troppo, pace e bello. Vabbè. Presidente, grazie, buona serata. A voi. Grazie. A voi. Beh, meno male. Abbiamo avuto una soluzione presidenziale, questo è importante. Sospiro di sollievo. Oh, siamo sollevati, su. Siamo sollevati. Abbiamo lo scudo, abbiamo lo scudo. Scudo presidenziale. Francesco da Brescia, Francesco, dica. Buonasera, volevo solamente fare una precisazione sulla questione della... A parte che volevo ringraziare e complimentarmi con Barisoni sull'intervento che ha fatto oggi. Vabbè, ma non è che ce frega. Ma non ce ne frega niente, quelle sono cose passate ormai, sono 19:29, che ce frega a noi? Sì, vabbè, allora? Sulla questione, lei ha degli spunti geniali, perché con la questione della telefonata fatta al presidente della Corte. Aspetti un attimo, c'è la borsa, perché lei vedo che è un po' lento, eh? Siamo sul lento andante. Mi stavo già mosciando un po', però non c'è problema. Accettiamo tutto, anche le persone lente noi, no, Parenzo? Accettiamo tutti, no? Tutto. Prendiamo tutto. Tranne quando ci sfasciano il microfono. Esatto. Ma che cazzo ti ridi? No! Ma ridi sempre. Allora, diciamo, siamo in Italia. Momento che credo tragico, dei quali capisco che siete superiori di queste cose. No, non siamo superiori, che c'entra? Non dovete cazzeggiare. Ma anche tu, no, non mi sembra che ogni giorno no, voi dovete cazzeggiare, vuol dire quando non sapete cosa fare del cazzo. Esiste, ecco, no, tutto quello, qui. Abbi pazienza, quello io so benissimo cosa fare, cioè non è che non lo so. Ma non dire ballate. Non dire ballate. Ah, perché non sa cosa farne, questa è un'altra notizia. Comunque, prego. Allora, datemi la nota del Quirinale, allora, su Unita, datemi la nota su Unita, allora, del Quirinale. Voglio dire, mi fai fare una, parlare fare una cosa, un appello. Ma che appello? Mi fai Radio Radicale di appello? Un appello non è, di un minuto. C'hai una radio a disposizione. Ma non è Radio comunità, Londra. Alla comunità penitenziaria. Ma non me ne frega un cazzo. No, dai, no, dai. Non me ne frega un cazzo. No, no, no, no, Marco! Ma perché? No! A te non c'è nessuno. Ma scusa, ma no, io dico che, ragazzi, mandate un po' di musica, dai. Ukulele. Tra la steppa ed il Mar Nero c'è il vivaio di Taras Bulba, c'è la statua del cavallo di Zabov. Sì, c'è l'impronta della scarpa di Khrushchev. La signora Boldrini, che sicuramente ha risparmiato qualcosa, una parte molto molto bassa del bilancio della Camera. Sì. Dice che i tagli ai dipendenti, che ci devono essere, media dello stipendio, come sai, 150.000 al mese, quindicesima, scatti praticamente automatici dello stipendio come non ha più nessuno, eccetera, eccetera, eccetera. Sostiene che i tagli, appunto, non devono ridurre la qualità della vita. Non devono ridurre la qualità della vita. Scivolone. Per arrivare poi a considerare anche la condizione, diciamo, degli stessi dipendenti della Camera. Voglio sottolineare che tutto questo si farà appunto con i sindacati dopo aver parlato e condiviso appunto possibili misure, e sarà tutto graduale e tutto deve essere assorbibile, perché la Camera è un'istituzione che funziona benissimo, ci sono fiorfiori di professionalità e i servizi che forniscono sono importanti, quindi noi non vogliamo intaccare la qualità no, di chi lavora, ma vogliamo cercare di salvare insomma, più risorse possibile. Allora, dico solo che se uno vuole mettersi d'accordo con i sindacati per cambiare i privilegi assurdi che hanno i dipendenti della Camera e del Senato, nulla. Non cambierà nulla. Ci sono ben 9 sigle sindacali, credo, alla Camera e 14 al Senato, o al contrario, adesso non ricordo. Cioè, per qualche migliaio di dipendenti, forse meno, ci sono decine di sigle sindacali, cioè una decina di sigle sindacali, che ovviamente l'unico scopo che hanno è quello di bloccare tutto. Bloccare tutto. Gli scatti di pensione, le pensioni che sono più vantaggiose rispetto a quelle di un cittadino comune, di un impiegato pubblico comune, la media degli stipendi, la quindicesima, e chi più ne ha più ne metta. Renzi a 105 questa mattina dal mitico Galli, giubbotto di pelle, sul giubbotto di pelle ad amici, un regalo di, sentiamo. Qualcuno ha chiesto dove ha comprato il giubbotto, sindaco. Questo qua è un giubbotto che ha fatto la polemica su Fonzi. Oh mamma, è un giubbotto di pelle. Mi ha regalato un'amica che è Donatella Versace. Mi ha detto: guarda, quando vai amici, metti di questo fucca giubbotto. Ed era la prima volta che me lo mettevo, visto il successo che ha avuto. Anche lui. Credo che adesso o cerco di fare Fonzi o mi butto su Ralph Malf, che mi prendeva meno. Chi lo contesta per essere andato ad amici? Ovviamente la polemica ideologica che c'è stata su amici io non la capisco. Cioè, ci sono alcuni che dicono che io posso andare ovunque ma non ha amici, o viceversa alcuni radical chic che dicono: beh, come ti permetti di parlare a quel pubblico di amici? Come se gli italiani che seguono amici fossero un po' meno italiani dei radical chic che contestano. Bersani umiliato dai grillini. Io ho soltanto detto che a me è dispiaciuto vedere quell'incontro in streaming tra Bersani e i capigruppo del 5 Stelle, da un lato perché quasi sembrava che umiliassero Bersani, tant'è che io mi sono messo nei panni della volontaria della festa dell'unità di Modena che fa i tortellini e che dice: porca miseria, reagisci di qualcosa, non ti far mettere... Cioè, Oh, ci sono due novità oggi. Il mitico professor Paolo Becchi, il nostro amico Becchi, che dice: i traditori del movimento faranno la fine di Giuda. Cioè, per me è una cosa grave chi tradisce il movimento, eh. signor Becchi, su Twitter. Cosa vuol dire tradire il movimento? Semplicemente tradire, pensarla se... in modo diverso dai due oligarchi. Se votano la fiducia a qualcuno, non c'entrano gli oligarchi, se votano la fiducia a qualcuno, cosa che è proibita, altrimenti te ne vai da un'altra parte, sono dei traditori, non sono semplicemente dei dissenzienti, sono dei traditori, e ha perfettamente ragione. Bisogna spiegare al professor Becchi che la democrazia è una cosa complessa, visto che lui insegna tra l'altro filosofia del diritto, dovrebbe anche saperlo il Becchi, questo Becchi che hai fatto diventare un maître à penser, farebbe sede della Corte Costituzionale, che diventerà un nuovo saggio. Oh, ci attacca anche Giampaolo Galli, ex Confindustria, tuttora Confindustria, che in realtà è ormai Galli della Confindustria? Sì, deputato del PD, no, ex Confindustria, adesso deputato del PD. Ma Galli della Confindustria ha ragione, però Galli me. No, ma che ha ragione, ha torto. Dobbiamo, Marcio, fare senti una riflessione profonda. Ha torto, senti. Il loro modo di portare stanno la notizia, facendo informazione? E quella l'informazione. Non è libertà di informazione, questo è un imbroglio, è un modo di carpire una conversazione privata, mandarla in onda, una cosa grave. Svegliatevi sempre però, anche quando mettiamo in mezzo Cosentino, quando mettiamo in mezzo Bini Smaghi, quando Maccari, mettiamo in mezzo Maccari, quando mettiamo in mezzo il povero procuratore di Napoli, Lepore, che saluto, Bonanni, Bonanni della CISL, eccetera, eccetera. Svegliatevi anche negli altri casi, cioè siate duri anche negli altri casi, non è perché toccano uno dell'establishment adesso vi incazzate, No, ma poi anche Bossi stesso, cioè Bossi stesso che è stato invitato per dei sì, mesi, non ci pensa nemmeno lontanamente a dire non so chi, ma non ci so pensa chi, ma non ci pensa nemmeno lontanamente, non ci pensa neanche un attimo ad arrabbiarsi con tutto quello che abbiamo detto sul signor Trotta, ad esempio, no? Ma sì, ma i leghisti da questo punto di vista sono molto più smart, molto più smart. Salvini che ci appoggia, grazie Matteo. Aia. Ma innanzitutto io adoro la Zanzara, Cruciani e Parenzo, e quindi non è obiettivo, mettiamola così. No, anche perché hanno fatto in passato decine e decine di imitazioni di Umberto Bossi telefonando vero. A ognuno, spacciandosi per Bossi o per Maroni, e si sorride, come Crozza anche quando prende in giro i leghisti, secondo me è eccezionale. E quindi anche quelli della Zanzara hanno fatto cosa non solo divertente, ma hanno dato una notizia. E a proposito, vi ricordate Bossi Cosentino? Sentite un pezzo, Bossi Cosentino, naturalmente Bossi e Parenzo, che non sai chi è, ormai lo sai, hai fatto 1000 interviste. Certo. Adesso dai, su. Ancora pronto, ciao, come stai? Buonasera, bene. E volevo salutarti, volevo dirti di questa telefonata. Devi rimanere tra noi perché sì, sono contento alla fine di come è andato il voto. Adesso c'ho il problema con Maroni, con Bob. Io non finirò mai di ringraziarti perché sei stato decisivo per evitare una zozzeria, insomma, che stavano ulteriormente portando su di me, ma in particolare sulla PDL Campania. Ti sono grato per la vita, questo lo devi sapere. Politici di centrosinistra, intellettuali di centrosinistra, persone del gruppo Repubblica, per carità, non è che ce l'ho col gruppo Repubblica, editorialisti, voglio dire, del gruppo Repubblica, che oggi ci attaccano, non tutti ovviamente, alcuni telefonavano al signor Parenzo e anche al sottoscritto per dire siete stati grandissimi, avete rivelato questo inciucio tra i Bossiani e Cosentino, perché grazie a Bossi si è salvato quel porco, quello zozzone di Cosentino. Non è che dicevano, beh, avete fregato Cosentino perché quelle cose a Bossi non le avrebbe dette pubblicamente, e dunque avete carpito una conversazione, la privacy. No, non lo dicevano. Cruciani, vaffanculo, stronzo e Cruciani. Luca da Milano, buonasera Luca. Ciao. Dica. Sono finito in un fosso ieri sera. In che senso? Ah, con Pannella. Sono ammazzato. Lo so, scusi se l'abbiamo fatta sbattere contro qualcosa o se no, no, per un posto. Batto la provincia di Parma e Reggio Emilia, e ieri non c'è, qui ci sono strade piccole, tutto allagato, e ieri sera non ce l'ho fatta e sono andato in un posto. Ecco, quindi assolutamente Pannella for president. Cioè Pannella per sempre alla Zanzara, lo so, magari potete avere... Ecco, ma for president addirittura. Ah, addirittura al Quirinale lo vedrebbe lei, al Quirinale. Come ieri. Grazie, Lucia, provincia di Genova, sono buonasera. Sono sicuro che presto Pannella tornerà alla Zanzara. Lucia, dica. Sì, posso parlare? Sì. Volevo dire che io mi sono arrabbiata e scandalizzata di più vedendo quel saggio che in riunione aveva il solitario sul computer. Cioè? Striscia la notizia. Sì. Hanno fatto vedere sì, i saggi. Sì, ho visto. Sì, ecco, ho visto. E quello aveva il solitario. Vabbè, il solitario sul computer, su, vabbè, d'accordo, adesso sarà stato un momento di pausa, eccetera. Però, certo, vedere un saggio riunito là che fa il solitario sul computer un po' fa pensare, non c'è dubbio, no? Comunque Vaime mi ha molto deluso, io mi sono divertita per anni ascoltandolo per radio e adesso, tra sì, l'età, ma è diventato... Vabbè, ma Vaime ha detto, l'abbiamo chiamato, ha detto, ha avuto un sussulto moralistico, un sussulto di moralismo, signor Vaime. Signor Vaime, sentiamolo, uno scherzo, una mascalzonata, un reato da perseguire, molto gentile il signor Vaime nei nostri confronti. Vagliela a dire alla 7 quando ti trovi là alla 7, Parenzo, una mascalzonata, un reato da perseguire. Vagliela a dire al signor Vaime, uno dei creatori di vari generi radiofonici, un mito per la radio di altri tempi, ovviamente, signor Vaime, che adesso se la prende con noi perché abbiamo fatto uno scherzo radiofonico che esiste da quando esiste la radio. Lo scherzo radiofonico esiste da quando esiste la radio. Con quella che Enrico Vaime sono certo definirà una mascalzonata. Una mascalzonata, vedi è che un ti reato conosco, che io spero verrà perseguito. Temo perché non sia un reato, ma il tema no, forse lo è altro. Sostituzione di persone. E va bene, adesso poi ci facciamo aiutare, perché abbiamo chi ci può aiutare. Però furto. Appunto parliamo della zanzara, Radio 24, bravi, l'intervista bravi, rubata, lo scherzo diciamo. No, ma poi ne parleremo più lungamente, lasciami finire, mannaggia a te. Non mi molesti moschito. Non mi molesti moschito. Siamo qui perché oggi è scoppiato uno scandalo del Partito Democratico, una polemica, Parenzo, riguardo a un titolo dell'Unità, Sì, polemica, direttore. Polemica rientrata perché poi si sono chiariti alcuni esponenti del PD, Renziani e il direttore Sardo. Rientrata per modo di dire, perché in realtà il titolo dell'Unità di oggi, quotidiano del Partito Democratico, è No di Renzi al governo Bersani. No di Renzi al governo Bersani. Come se Bersani, se Renzi, in un'intervista ancora la sera l'altro giorno a Cazzullo, avesse detto no al governo Bersani. Ovviamente non è così. Questa è l'interpretazione dell'Unità di Sardo, che è un giornale del Partito Democratico che attualmente è in mano ai dirigenti di questo Partito Democratico, anche l'Unità, indirettamente, no? Questa è la... Sardo è un grande sponsor di Bersani. Uno può dire, no, sarebbe strano il contrario. Sì, ma importante sarebbe... Però certamente c'è stata una bastonata a Renzi, su questo non c'è dubbio. Una bastonata a Renzi da parte dell'Unità. Come la vogliamo interpretare, Roberto Reggi? Buonasera. Buonasera a voi. Come la vogliamo interpretare questa cosa dell'Unità di Sardo? Una bastonata a Renzi, un po' di olio di ricino? Beh sì, sicuramente sembra di essere ritornati ai tempi in cui gli davano del fascistoide perché si rivolgeva ai delusi del centrodestra, vi ricordate? E poi Bersani stesso invece a 3 giorni dal voto si rivolse ai delusi del centrodestra, lui invece non era un fascistoide ovviamente, no? Faceva bene, come faceva bene prima Renzi a fare questa cosa. Cioè una roba, adesso, una specie di manganello mediatico questo dell'Unità, viene usato dai bersaniani in questo modo secondo lei? Ma il rischio è quello, no? Che parta questo meccanismo in cui si fa la propaganda e la propaganda arriva immediatamente sul territorio e tutti dicono la stessa cosa, per cui sembra vero, quello che è una falsità enorme. Matteo non ha mai parlato di fare il governissimo, per esempio, cosa che invece UDEM ha riportato, altro strumento ufficiale del Partito Democratico. E l'Unità con questo titolo ha dato una visione fuorviante del messaggio di Matteo, che è un messaggio invece molto chiaro, quello che stanno dicendo tutti gli italiani. Bisogna fare presto, no? È passata una quaresima, 40 giorni, e non si sa ancora, non si vede ancora il traguardo. Però la parola governissimo e accordo col PDL, Renzi l'ha pronunciata. Ovviamente era rivolta a Bersani, cioè o si fa un accordo con il PDL per fare qualche cosa. No, lui ha detto patto costituente, non è governissimo, patto costituente di 6 mesi, in cui si fanno le cose urgenti, perché non possiamo andare al voto con questa legge elettorale, bisogna cambiarla, perché altrimenti ci ritroveremo con la stessa situazione, con qualche punto percentuale avanti e indietro dei gruppi, dei 3 partiti che si stanno dividendo l'elettorato, ma con una sostanziale equilibrio e di stallo. Ma non è che voi avete vedendo. Non è che voi avete paura, come dice Bersani oggi in qualche retroscena, che poi non so perché, adesso cambiando argomento per un attimo, Parenzo, i retroscena vanno bene, cioè i virgolettati di retroscena vanno bene, anche quelli rubati dietro le porte, dentro i bagni, virgolettati attribuiti a chiunque in qualsiasi momento, per non parlare poi delle intercettazioni che non potrebbero essere pubblicate, in cui si parla di sesso, in cui si parla di minche, eccetera eccetera. Dopodiché la radio fa i suoi retroscena in un certo modo, non è che possiamo fare i giornali noi, perché non è che stampiamo, andiamo in onda con gli audio, noi facciamo i nostri retroscena e potremmo mettere, guardate, io ne ho 6-7 di queste telefonate, ve lo dico subito qua, io ho 6-7 telefonate che non mando in onda di imitazioni di persone ingannate da un imitatore, in cui si dicono delle cose terrificanti, si dicono delle cose orribili su amici di partito, su compagni eccetera. Ovviamente non le mando in onda, perché queste cose qui, se io le mando in onda, succede giustamente il casino, perché sono dichiarazioni estorte, ovviamente, cioè queste qua, cioè sono dichiarazioni che non si potrebbero, ovviamente una persona non le direbbe in pubblico, fanno parte di uno scherzo radiofonico, finché lo scherzo resta, diciamo, sui giudizi politici va bene, quando uno però dice quello è eccetera eccetera eccetera, io ne ho 7-8, non le mando in onda, vabbè. No, però nel caso è, qui è diverso, Ricci concorderà con noi, qui non è un retroscena, qui è la scena. Cioè Onida davvero pensa che, come dire, Berlusconi sia unfit e anziano, ma lo pensano in tanti, quindi non è retroscena, è scena. Ma infatti quello che ha detto Matteo ha il pregio di essere condiviso dalla stragrande maggioranza degli italiani, però nessuno lo dice, sembra che ci sia un partito paralizzato che ha paura di offendere chissà chi, e quindi è preferibile stare zitti di fronte a una situazione che è ingessata da 40 giorni, no? Però scusi un attimo, Reggi, si alza e dice guardate che c'è un problema, perché ci sono le fabbriche, viene bastonato, le aziende, viene bastonato, c'è un problema perché un sindaco li viene sulle sue pelle, se li ha davanti alla porta tutte le mattine. Però lei quando ha letto questo titolo di Unità cosa ha pensato? È ripresa la bastonatura mediatica? È ripresa... Sì, io ho pensato quello, riparte come quello che partì ancora prima delle primarie, no? Perché dovevano far apparire Matteo l'infiltrato di destra all'interno del partito e quindi partire propaganda. Allo stesso modo adesso, no, dopo che mi sembra abbia dimostrato coi fatti, e Bersani lo ha riconosciuto, che è stato leale dopo aver perso come nessun altro mai è stato in politica, solo per il fatto di aver detto la verità dopo 40 giorni di stallo, beh, insomma, subito hanno ricominciato a bastonarlo e non va bene, basta. Senta Reggi, ma non è che avete paura, come dice qualcuno, che Bersani alla fine ce la faccia? Cioè avete timore che Bersani ce la fa? Perché questo è uscito fuori dai retroscena. È un altro meccanismo questo, no? Che sta vuol far apparire Matteo quello che non è. Matteo è preoccupato che non si affrontino i problemi concreti delle persone. Come vabbè, siamo adesso tutti, questo no? Sì, d'accordo. Allora, però uno potrebbe dirlo anche di Bersani. Potrebbe dirlo anche di Bersani questo qua. Ma infatti io sono convinto che Bersani stia facendo il possibile, anche se a questo punto dovrebbe prendere atto che c'è un problema grosso, no? Cioè, c'è un problema di uno stallo che non è superabile. Allora, no? Benissimo. Allora, lei dice il tentativo di Bersani è morto, lo vogliamo dire, è morto ufficialmente? Non c'è... Insomma, adesso non lo so io se è morto. Beh, come no? Secondo lei è morto o no? Secondo me sì, secondo me personalmente non porto la posizione di Matteo. No, di Matteo, di Roberto Reggi, certo. Io penso che sia morto perché le ha provate tutte. Tranne quella di provare su di sé il metodo che ha funzionato con la Boldrini e con Grasso, per esempio. Cioè? No? Cioè? Quello di scegliere un'altra persona. Dovevano esserci altri, no? Erano candidati ad andare lì. E li hanno tolti e immediatamente hanno trovato la soluzione. Cioè, quella doveva essere la soluzione. Bersani dovrebbe applicare a se stesso il metodo Boldrini-Grasso. Proviamola, ipotizziamola, no? Proviamola. Quindi farsi da parte. Cioè, un'ipotesi, no? Magari si trova la soluzione immediatamente. Oppure, se questa non è la soluzione, guardiamo in faccia la realtà, prendiamo atto e andiamo al voto. Non è che avete paura che si vada a votare troppo tardi, dunque finisce la possibilità, cioè le chance di Renzi, la chance è adesso e dopo Renzi potrebbe consumarsi. Veramente, adesso sarebbe meglio di no per noi, infatti Matteo lo continua a ripetere, no? Il tema è, dobbiamo cercare di risolvere i problemi attuali. Se dobbiamo andare al voto non ci possiamo andare adesso, perché altrimenti ci andremo con la legge elettorale attuale, sarebbe un disastro. Scusi, ci Reggi, ma Sardo almeno il tempo Sardo di cambiare la legge. Sì, certo, Sardo se ne deve andare? Ma questo è stato un po' un'esagerazione, nel senso che era una provocazione. A provocazione si è risposto con provocazione, no? Dove ha sbagliato? Ma forse se Renzi fosse il capo del partito, adesso magari non sarà segretario, eccetera, lo terrebbe uno come Sardo oppure lo cambierebbe il direttore dell'unità? No, ma adesso non lo so, non si fa mica le vendette non portano fortuna, l'avete visto su di me, no? Ci sono, ma UDEM, per esempio, lei la terrebbe oppure serve o no una televisione del partito? Per me non serve. Non così, dai, non così. In che senso non così? Non così, così è la televisione di una parte del partito, invece no, deve essere di tutto il partito, di tutte le sensibilità, non può essere soltanto di una parte, viene usato come una clava nei confronti degli altri. Ma no? È una propaganda bersaniana fa praticamente. Infatti la chiamano Ubers. Ubers è straordinario, com'è che la chiamano, scusi? Ubers. Ma questo perché? È una pravda, dice lei. Una specie di pravda. Vedete voi perché. Insomma, no, noi non sappiamo. Chiaro. Scusi un attimo, perché la Geloni è proprio una fedelissima di Bersani, cioè, insomma, ha un'ammirazione sconfinata di Bersani, diciamola tutta. Beh sì, mi sembra, ecco, evidente. Lo dite voi? Prendo atto, lo diciamo noi. Secondo lei ha un'ammirazione Diciamo che ha dichiarato più volte, no? La sua fede bersaniana, ma ci mancherebbe altro, legittima. Però va un po' oltre questa fede bersaniana. In cui il direttore deve garantire, no, pari dignità a tutti, sì. Non può prendere solo una parte. No, ma questo essere bersaniano del direttore di UDEM, lei dice, è normale, però va un po' oltre, c'è un po' una devozione, questo voglio dire. No, questo non lo so, ragazzi. Ma la guarda lei, UDEM? La guarda ogni tanto? Io no. La guarda. E l'unità la compro ogni tanto o no? No, nemmeno l'unità, solo il titolo. Non la compro, la leggo però. La leggo. Il titolo. Ma come non la compra? Ma compagno Renzi. Online. Leggo online. Solo il ma titolo. Ma online, lei deve sostenere il giornale del suo partito. Comunque, diciamo la verità. Scusi un attimo, diciamo la verità. Togliamo Europa, c'è anche Europa che... Certo, c'è anche Europa, non c'è dubbio. Meglio Europa di altri. Meglio Europa dell'unità, per esempio, no? Sì, secondo me sì, però è un mio giudizio personale. Sì. Scusi un attimo, ma lei toglierebbe il finanziamento pure alle testate? Io sì. Io sì, perché chiunque deve cercare di trovare un equilibrio economico-finanziario per conto suo, insomma. Se è un servizio vero, alla fine c'è qualcuno che è disposto a pagarlo per averlo, altrimenti è qualcosa... Dunque ha ragione Grillo su questo. Su questo ha ragione Grillo. Via il finanziamento pubblico, voi siete d'accordo? Sì, ma noi lo dicevamo prima di Grillo, poi adesso sembra che le cose le abbia detto tutte Grillo, no? A partire dal finanziamento pubblico. No, ma figuriamoci. Sono... Anche sui finanziamenti ai giornali, lo dicevamo anche noi, insomma, alle primarie, che era un tema da rivedere questo, perché un giornale deve poter stare in piedi da solo. Scusi un attimo, Reggi, adesso la pubblicità, ma lo stipendio per esempio del direttore di UDEM è eccessivo rispetto al fatto che sia... Non lo so che cosa faccia. Come non so cosa faccia? Come non so? No, non lo so davvero, non fatemi dire delle cose che non penso, non lo so che cosa fa il direttore, né quanto guadagna, né quanto... Ma lo sa benissimo, come, che lavoro fa il direttore o no, oppure non lo fa? Fa il direttore, sì, ma non so se... adeguato all'attività che svolge, perché non conosco l'attività che svolge sta ragazza, non lo so. Non lo so davvero. Vabbè. Allora abbiamo la pubblicità, 800 24 00 24. Torniamo subito con Roberto Reggi, una delle persone più vicine a Matteo Renzi, escluso dal Parlamento per volontà di bersaniani, come lui stesso disse tempo fa. E vabbè, questa è roba passata, però adesso c'è il presente. I delicati messaggi delle altre oggettine nei confronti di Rubi Rubacuori. Una che si chiama Ioana Visan. Ma che cos'è questo? Tu chi è? È David per strada. David! Clacson, sì. E i clacson di che, scusa? È il clacson del tassista che si chiama, scusi lei, direttore? Sì. Di Mario, no, perché il signor Cruciani che mi chiedeva cos'era questo clacson del signor Mario, il tassista, il direttore Mario, no? Sì, ma direttore, perché direttore? Sì. Perché lo chiami perché sempre direttore? Prima o poi qualcuno ti mena, lo sai, come ieri ha fatto Pannella, prima o poi qualcuno ti mena. Ma non, ho detto semplicemente che è direttore, mica che... Ma non è direttore di niente, fa il tassista. È direttore del taxi. Ma perché? Non ho capito. È direttore di questo taxi, lei sì ma o no? Ma non si chiama direttore, no. Cioè, no, non, no. È, non, è direttore. Non è direttore. No, non è molto spiritoso, guarda che prima o poi ti mena qualcuno. Vedo che continui a non capire un cazzo. Non è un buon motivo per spaccare tutto questo. No, assolutamente non è un buon motivo, no. Perché no, se no diventa, no. Sai che uno non capisce. Allora, il diritto a spaccare Barbara tutto. Guerno, Ioana Visano, Rubi si difende emozionata davanti al Tribunale di Milano, manca poco e ci dice che la Minetti è una brava ragazza, ipocrita. Vabbè, questa ci è andata leggera in realtà. Poi però, come dire, ci va giù duro, Una pulizia dentale oppure un passaporto nuovo a caso? Hai rovinato il cavaliere, tornatene a casa. Ti puzzano le ascelle, guarda che esiste il sapore, vergogna, ti bugiarda. Prendi il gommone e torna a casa. La signora Barbara Guerra. Ma baff. E poi la frase cult. Ha preso più schizzi lei che i quadri di Picasso. Si è fatta mezza Milano in 6 mesi. Ogni interpretazione... Com'è? Ogni interpretazione è libera, no? Ogni interpretazione no, è libera. Beh, è bello invece, io non pensavo a Barbara Guerra fosse così acculturata, perché è bello questo riferimento a Picasso. Sì, in realtà qualcuno mi ha scritto che non dovrebbe essere Picasso, è un altro, come si chiama? Pollock, beh, grande pittore anche Pollock, non c'è dubbio. Però bella questa idea dello schizzo, perché Picasso effettivamente schizzava sul quadro. Reggi, lei l'ha accompagnato Renzi ad Amici o ci è andato da solo? No, c'è andato da solo, no, pensavo... Quando va la prova del cuoco? Cosa? Quando va la prova del cuoco? Ah, diciamo, beh, ma... beh, anche lì potrebbe andarsi, perché chi guarda... A cucinare Bersani a fuoco lento. No, lasciate lì. Perché si è rivolto anche in quel caso a un pubblico che normalmente non si interessa di politica, quindi ha avuto certo, la possibilità così, di fare una proposta anche a questi ragazzi, giovani in particolare, che... lo hanno conosciuto e quindi... Ma certo, poi scusate, ma se uno deve andare, deve rivolgersi non al pubblico tradizionale, comunque agli elettori tradizionali di un partito, ma dove va? Non è che va a Omnibus, con tutto il rispetto ovviamente, in onda... Ci sono sempre quelli che lo guardano, no? In parte anche la Zanzara, anche se noi siamo un po' più larghi, diciamo, no? C'è molti camionisti, molto bobolo, come dice Parenzo, va ad Amici. Amici è un classico pubblico di giovani, eccetera, che magari la prima volta hanno votato Berlusconi, hanno votato Grillo e adesso Renzi cerca di raccattare, ragazzi, la politica si fa appunto, così, quindi sia coerente, vada, cioè non è che si va meglio andare ad Amici che andare al coso, come si chiama, al teatro là dove ha finito la campagna elettorale, Renzo, tu che sei tutto Bersani, al Capranica, allo Iovinelli, cioè meglio quello dell'Ambro Iovinelli o no? No, perché certo. In questo modo si ha la possibilità di raggiungere persone che normalmente non ascoltano progetti politici, come invece ha potuto fare in quell'occasione. Sì, ma meglio è un po' come? No, è un po' come quando Matteo diceva, no, noi ci dobbiamo rivolgere a tutti, ma chi è abituato a fare il sindaco lo sa, perché incontra dai giovani e i bambini. Però scusi Reggi, ma è meglio, è meglio Maria De Filippi che Nanni Moretti, diciamola tutta. Beh, in questo momento forse sì, nel senso che noi abbiamo bisogno di dare speranza ai giovani, in particolare che sono quelli che soffrono di più. Cioè meglio rivolgersi a Barbara... Ai giovani? Sì, dai, Maria De Filippi. A quelli che guardano... Ma se io Maria devo De capire Filippi. L'Italia, non è che mi rivolgo a Nanni Moretti, mi rivolgo a Maria De Filippi, no, o sbaglio? Sono d'accordo. Ma sono su, d'accordo. È così, in dai. In questo momento la interpreta meglio lei. Soprattutto le giovani generazioni. Scusi un attimo, ma tornando al partito, ma non costa un po' troppo questo partito? O no? Beh, troppi dipendenti? Sì, vogliamo... Beh, ma lo ha capito anche Misiani, no? Lo ha capito anche il tesoriere, lo hanno capito tutti quelli che erano abituati a immaginare un partito molto strutturato, molto pesante, anche molto costoso. Ma è fallito in pratica non questo partito? Non sarà più come prima. Economicamente partito. È fallito ma questo partito? Ma guadagna troppo lì? No, no, non credo che sia fallito. Beh, insomma, ha preso atto questo partito e la sua struttura ha preso atto che non sarà più come prima. Nulla sarà più come prima, bisogna risparmiare, fare le cose per bene e trovare magari finanziamenti non pubblici, ma da chi crede che l'attività politica sia un servizio utile. Ma non è che pensavano di mandare un po' di dipendenti al governo per sgavare dal partito, non è che avevano questa cosa in testa, Vabbè, ma questo l'hanno fatto tutti i partiti sempre, nel senso che uno un dirigente di partito poi ambisce legittimamente a entrare in Parlamento perché fa attività no, politica, voglio e quello dire, è il luogo migliore, i dipendenti no? del partito poi non è che li volevano, avevano in mente beh andiamo al governo, erano così sicuri, poi molti li dirottiamo nei vari ministeri così poi li paga lo Stato. Dovete chiederlo a Migliavacchi. Lo so, ha ragione pure lei. Ma su chi è che guadagna troppo? chi è che secondo me guadagna troppo? Innanzitutto uno dei vostri guadagna troppo, Paganelli guadagna troppo, 8.000, 8.000 al mese. Beh sì, 8.000, sono Paganelli, ho capito. Saranno poco, pure, saranno anche meritati gli eventi, eccetera, però 8.000, quello poco, è, poco. Così risulta. Scusi, ma esiste il tortello magico? Altro che se esiste. Chi fa parte del tortello magico? Beh, adesso lì, sentendo un po' le battute che girano, il tortello magico sono i consiglieri di Pierluigi Bersani. Cioè Migliavacca? Migliavacca. Tortello perché sono emiliani, quindi certo. Si è associato il territorio. Ma non solo. Gastronomia. Faranno la fine del cerchio magico di Bossi? Beh sì, sì, è una similitudine ingenerosa, credo. Comunque, però... i consiglieri più stretti sono emiliani, sono Errani, Migliavacca, Fiamminghi... Questi insomma, che danno sempre consigli ottimi a Pierluigi Bersani. Beh, ottimi, come dire, ironico, diciamola tutta. Insomma. No, diciamo su, che dai, a volte ci hanno preso, a volte no, ultimamente mica tanto. Ma in dai. Questo tortello magico, che c'è la Geloni c'è in questo tortello magico, per esempio? Non lo so, cosa c'entra la Geloni? Non beh, è, no, è direttore tanto di non è emiliana e appunto. Non so il tortello, non lo so se gli piace il tortello. No, ma mica era per il tortello, era semplicemente per la questione che si era inserita anche lei da estranea non emiliana all'interno dei principali consiglieri. L'altro giorno l'ho visto, che l'ha vista la conferenza stampa di Bersani, no? A un certo punto si è avvicinato una col computer, una ragazza bionda, l'abbraccio fortissimo perché mi sta anche simpatica, se ho Geloni, e ha mostrato qualcosa al segretario. Vabbè, questo è normale. No, perché capito, c'è un rapporto importante. Vabbè, comunque, quello è. Parenzo, che fai? Stai dormendo? No. Oggi si è candidato Barca alla segreteria, ha letto da qualche parte? Sì. Signor Reggi, ma è un conservatore Barca oppure è un innovatore? Secondo lei? No, è molto bravo Barca, è stato, secondo me, è uno dei migliori ministri che abbiamo in questo momento ed è una persona molto preparata e con una grande visione. Oh, bene, cioè, farebbe bene il segretario del PD, secondo lei? Oh, sarebbe un ottimo segretario. Beh, tanto Renzi non lo vuole fare, a voi che be frega del segretario. Esatto. Dunque, scusi un attimo, ma cioè, nell'intervista a Corriere della Sera però c'era un passaggio strano, cioè... Renzi ha davvero l'idea che se qualcosa non si sblocca di creare delle cose fuori dal Partito Democratico? No. Assolutamente no, non è assolutamente... Qualcuno però vi vorrebbe fuori, diciamo. Ma questo qualcuno c'era anche durante le primarie che teorizzava la possibilità. Cioè qualcuno vi vuole fuori? Quando fu chiaro quali erano le regole... delle primarie, che erano restrittive rispetto alla partecipazione, quindi danneggiavano Matteo, qualcuno cercò di convincere Matteo a uscire dal partito, ma Matteo ha sempre detto che crede fortemente nel bipolarismo e su questo vuole lavorare politicamente. Però qualcuno vi vuole fuori, un altro partito che si aiuta a questo meccanismo. Qualcuno vi vuole fuori, diciamola tutta. Beh, ma magari poi si troverà lui a uscire eventualmente, no? Non è mica detto che ci sia questa scissione che qualcuno teorizza solo da una parte, potrebbe essere anche dall'altra, cosa dici? Ah no, quello è possibile, cioè voi vi aspettate, se magari Renzi diventa il candidato premier alle elezioni di quando saranno, vi aspettate una scissione? Ma no, io no, io credo che poi il partito sarà capace di rinnovarsi, di andare avanti con patto, magari qualcuno uscirà, come è naturale che sia nei cambiamenti, ma non necessariamente... Diciamo la parte liberal di centro, no? Potrebbe essere anche l'estrema sinistra a decidere di uscire. Senta, lei perché si trovi in minoranza. E qual è l'estrema sinistra del partito? No? Estrema sinistra addirittura. In questo momento ci sono tanti che... Cioè Fassina è l'estrema sinistra? Beh, diciamo che le sue teorie economiche sono di estrema sinistra, che non vanno più bene neanche, non so, dove, no? Dove? No. Nemmeno so, a Cuba, dice secondo lei. Secondo me, ma che? No, Cuba non li voglia mica quelle teorie lì, sicuro. Detto questo, ci sono dei bersaniani stretti che si presentano in televisione in queste ultime settimane che, secondo me, farebbero fatica a rimanere all'interno. Poi, sai, io ho visto tanti cambiamenti repentini, per cui non c'è da stupirsi di nulla. Ah, non c'è dubbio. Va bene, che vogliamo fare? Lei, di fronte a una scelta tra Grillo e Berlusconi, chi potrebbe... No, è una scelta, io so che entrambi non vanno bene, uno perché non ci vuole, anzi ci insulta continuamente e mette a rischio anche la nostra dignità, per cui sarebbe meglio lasciarlo perdere. Cioè il segretario si è fatto umiliare, come dice Renzi, no? Si è fatto umiliare di fronte a... Diciamo che secondo me Berlinguer non si sarebbe mica fatto trattare così, diciamolo dai. Cioè, ma lei che cosa avrebbe fatto di fronte a quei grillini? per esempio. Alla secondo insulto probabilmente non li avrebbe più guardati, secondo me. No, ma lei che cosa avrebbe fatto, Reggi? Non ci sarebbe nemmeno andato allo streaming. No, io non ci sarei, io personalmente non ci sarei andato all'ennesimo insulto, no. Avrei provato un'altra strada, prendendo atto che si è in tre. Uno mi insulta continuamente, sì. Ne rimane un altro, provo a mettermi d'accordo per sei mesi per portare il mio paese alle elezioni con una legge elettorale dignitosa, tutto lì. Però e lei di fronte alla scelta elettorale, cioè una volta Letta, Enrico Letta, disse io mi dovessi trovare di fronte a una scelta, votare PDL o Grillo, alla fine voterei per il PDL. Lei per chi voterebbe tra PDL e Grillo? No, io non lo so, adesso mi metti un po' in difficoltà. Qua siamo PDL, apposta. PDL con Berlusconi io non lo voterò mai, perché io rispetto gli elettori del PDL, perché secondo me sono persone come me, sì. E che hanno idee diverse, ma io quell'impostazione lì non la voterò mai. Grillo, alcune idee mi piacciono, lui non mi piace. Uguale, va bene. Grazie Reggio, a presto, grazie, abbracci, ciao. Presto. Ciao. Monellacci. C'è idillio, grande idillio nel Partito Democratico, come hai sentito, Parenzo, 800 24 00 24. Ruggero da Milano, buonasera. Quanta Ruggero. Quanta concordia, quanto amore. Ruggero? Sì, mi sente? Sì, innanzitutto c'è Grillo che oggi ha detto PD, PDL, se fanno l'accordo la gente prenderà i bastoni. La gente prenderà i bastoni. I bastoni! Così ha detto Grillo. Come dice il mio amico Kim Jong Grill. E su alcune cose ha ragione, su altre ha torto. Io lo dico tranquillamente, David, inutile che mi insulti. Vabbè, Ruggero, allora. Mi sente? Sì, dica. Sì, dicevo, il tenore del mio intervento è un po' cambiato mentre l'ascoltavo. Io devo dire che trovo abbastanza strano questo, diciamo, questa levata di scudi contro l'operazione che avete fatto voi di scherzo telefonico, perché sarebbe strano se questa fosse una trasmissione giornalistica, ma questa è diventata una trasmissione di satira. Voi fate... Non lo so, satira, per me le due cose coincidono, per cui non posso rispondere questa su questa. Sì, questa è la questo. Tua opinione, la mia è diversa. La cosa che invece io mi chiederei è come mai... Scusi, l'intervista prima che abbiamo fatto al signor Reggi, Roberto Reggi, sì. Che cos'è? Una cosa giornalistica o una cosa satirica? Ma guardi, ha parlato in buona parte di questioni marginali... Ma quelli sono cazzi nostri, le questioni Renzi marginali? Renzi da amici, piuttosto che... Sono cose che sinceramente le considero pseudo-giornalistiche. Marginali, benissimo. Ma la cosa che invece considero, sì, su cui riflettere al limite, è quello che, sì, avrei sollevato io, è il dubbio, sì, di come mai la radio di Confindustria... Sì. In prime time manda una trasmissione come la sua che mette la berlina in una situazione critica, no? Drammatica. Sì, il motivo, il motivo lo sa qual è, Ruggero? Il motivo è perché lei chiama, cioè lei sta chiamando in questo momento per raccontarci questa cosa. Evidentemente c'è una ragione, no? Ha perfettamente ragione, infatti fa più ascolti. Io devo dire che l'ascoltavo 2 anni fa ed, sì, era una trasmissione sicuramente di tenore. Mi avevano detto che aveva cambiato completamente tono, era diventato più buffoncesco, e devo dire che ho avuto conferme di questo. Quindi, vabbè, allora... mi ha stupito il fatto che ci sia stata questa levata di scudi nei confronti di una trasmissione che non fa del giornalismo ma fa altro, e quindi avete fatto un'operazione assolutamente legittima di satira, uno scherzo, carpendo delle cose. Quindi questa è la mia considerazione, ma come le avevo detto, il tenore del mio intervento, vabbè, ma adesso il fatto che sia cambiato, che sia cambiato il suo intervento, esatto, è cambiato, ce ne importa fino a un certo punto, ma comunque il problema fondamentale è che non capisco questa distinzione tra la satira e il giornalismo, sono tutte buffonate. Felice da Bergamo, lei è, per carità, padrone di pensarla così, ma non c'entra assolutamente nulla, si fanno operazioni giornalistiche, tra virgolette, anche facendo satira, anche facendo gli scherzi radiofonici. Felice da Bergamo, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Vada. Io volevo manifestare la mia ammirazione e attitudine nei confronti di Marco Pannella, sì, perché lui è riuscito a fare quello che noi ascoltatori della Zanzara, sì, saremmo tentati di fare spesso e volentieri quando la sentiamo. Cioè? Spaccare la faccia sostanzialmente. E perché non lo fa, scusi? Perché non viene qua sotto? Purtroppo sono al di là del microfono, non lo posso fare. Beh, venga qua sotto la radio, no? Ma no, metaforicamente, ovviamente. Ah, ecco, una metafora, diciamo, una metafora, sì, certo, ho capito, una metafora. Vabbè, è felice. La perdono, le do il perdono papale. Se mi permette, riguardo invece gli scherzi telefonici, si dice che siano giochi innocenti per bambini deficienti, ma lei, immagino, non sia più un bambino, no? Possa distinguere quando è uno scherzo, quando una cosa... Che fastidio, mamma mia, che fastidio, sì, che vero? Fastidio, che moralismo, immagini. Che perbenismo, che può, puntini dai, sulle i... Può. Perché non si può? Perché si poteva con Cosentino e non si può con Onida? Me lo spiega? Perché si poteva perché con gioco, Cosentino? Perché quello perché è considerato un mezzo pesante. Mafioso? Perché il gioco è troppo pesante e... Ma che vuol dire? Che vuol dire? Gioco in questo momento. Ma chi se ne frega? A me non me ne frega niente della posta in gioco, delle istituzioni e della tenuta delle istituzioni, ha capito? Sono problemi di altri. Sono problemi di altri. Quando lavoro non me ne frega, quando faccio, come dire, il cittadino andando a votare, eccetera, se devo pensare a casa mia, al mio paese, magari ci posso anche pensare. Quando lavoro l'obiettivo è un altro, caro Felice, non è che sto pensando alle istituzioni, non pensiamo di cambiare il mondo qui, lo voglio dire anche al signor Lerner. Qui non si pensano ai massimi sistemi, a cambiare il mondo. Qui si pensa a mettere la mano nella merda, a sangue e merda. Cioè si pensa a queste cose qui, si pensa a fare una trasmissione radiofonica. Non si pensa a cambiare il mondo, a fare le riflessioni. Oddio, sì, quello, quell'altro. Non stiamo qui pensosi, no, Parenzo? Pensa anche tu ogni tanto, pensa anche tu. Pensa anche tu, no? Ma io non devo pensare a niente, non c'è picchetto. E allora, mi scusi, l'eterogenesi dei fini, qual è l'obiettivo delle istituzioni? È un'altra cosa, non è Quark. Quark parla degli animali. Zeta parla di altre cose, di cose interessantissime, per carità, è tutto, anche se poi per fare gli ascolti a un certo punto anche il signor Lerner ha messo le mani nella cacca, no? Con le intercettazioni, con le donne, eccetera, eccetera, no? Come i nostri, ma da quando esiste la radio si fanno gli scherzi. Non è un'intercettazione, nessuno ha messo delle cimici, non è una conversazione rubata, è uno scherzo radiofonico, è una cosa molto diversa. Margherita Hack, io la rispetto ovviamente, rispetto quello che dice, da un certo punto di vista è l'unica persona a cui bisogna chiedere scusa, perché sono molto preoccupato dal fatto che quando lei adesso chiamerà qualcuno nessuno le crederà. E sul fronte politico, caso chiuso, assicurano ambienti vicini a Gaetano Quagliariello, il senatore Saggio, di cui qualcuno aveva paventato il ritiro dalla commissione voluta dal Quirinale. Quagliariello oggi ha avuto un incontro con Napolitano che ha apprezzato il senso di responsabilità di tutti nella vicenda. D'altra parte, in questo momento, ci mancavano solo gli scherzi per telefono. Ed il sonno poi mi assale, lei lo sa ma sa aspettare. Era un servizio della 7 dedicato a questa vicenda, caro Parenzo. Allora, dove sei, maledetto? Pronto? Ci mancavano pure gli scherzi telefonici in quel momento, ha detto il collega. Giorgio da Monza, eccoci qui. Giorgio. Buonasera, io volevo solo dire che chi subisce uno scherzo telefonico se lo merita. Perché Onida stamattina, scusandosi, ha detto che l'AC non la conosce neanche di persona. Allora perché al telefono una persona che non conosce di persona ti comporti, dici queste cose così personali, fai dei giudizi, dici delle cose che dovresti dire semplicemente a una persona quando guardi in faccia? No, Giorgio, questa è un'interpretazione, però no, devo dire la verità, devo dire la verità, adesso non è perché voglio difendere Onida, è evidente che la signora Hack che ti chiama, uno risponde, certo, poi lui è un chiacchierone, dunque ha cominciato a chiacchierare con una persona che non conosce. Allo stesso modo. Ma chi è la signora Hack? La conosceranno il 20% delle persone, la signora Hack. Beh, ho capito, Onida probabilmente sa chi è Margherita Hack. Sa chi è, ma allora se lo chiamava chiunque, lo chiamava Dario Fo, lui diceva le cose a Dario Fo perché sa chi è. Certo. Ma Dario Fo la conosce, certo, perché è milanese, si conoscono benissimo. Margherita Hack non la conosce, la conosce perché conosce è famoso, comunque è famosa, io non credo che la conoscono solo il 20% comunque, delle persone. Secondo me si è meritato lo scherzo, perché la trasmissione Zanzara serve a mettere i piedi per terra alle persone che volano troppo alto, secondo me certe volte si perdono un po', insomma. Giulia da Napoli, grazie. Giulia. Io trovo che ieri Marco Pannella abbia perso l'ennesima occasione di farsi ascoltare dagli italiani, e che peraltro quello che è successo riflette la conduzione accentratrice che lo stesso Pannella ha dato al Partito Radicale, che negli ultimi 20 anni ha disperso il suo patrimonio umano, per quanto devo dire che Cruciani evidentemente si è fatto proprio male se ha definito all'inizio trasmissione Pannella un pacifinto. Ma no, sì, ma non mi sono fatto, mi sono ferito un po' al dito, ma niente di grave. Cioè, pacifinto è un'espressione insomma, utilizzata, perché... è un'espressione pacifinto, l'ho trovata su Twitter, credo, dell'amico Piccioni, che ha definito pacifinto Pannella, che per impazzisce si mette a scaraventare le cose addosso a me, sul muro e tutto. Pronto? Sì, pronto. Pronto, buonasera. Signor Di Cosmo? Buonasera. Signor Di Cosmo? No. Fulvio Di Cosmo, cercavo. No, non, assolutamente, non saprei darle nessun riferimento. Fulvio Di Cosmo è candidato con il 5 Stelle? No. Non è lei, no? Assolutamente, un numero lei sbagliato. Mi scusi. Ma lei chi è? Mi scusi. Sciana dalla provincia di Chieti. Beh, magari potrebbe essere più interessante di quella 5 Stelle. Buonasera Cruciani, senti, io volevo fare semplicemente una proposta per il Quirinale. Gianfranco Fini, guardi, l'uomo più giusto in questo momento. Guardi, signora Sciana, sicuramente verrà eletto al primo turno, anzi forse prima del primo turno. Guarda che quello lo votano tutti, mio caro, lo sì, votano tutti lo votano. Ma che votano tutti? Ma lo votano chi? Ma chi lo vota? Ma che dice? Votano perché è stato l'unico a ribellarsi a Berlusconi . Quindi quello della sinistra lo votano tutti. Ma chi lo perché vota? È stato l'unico ad avere la forza di ribellarsi a Berlusconi. Ma lei dove quindi vive? Quindi i Monti lo votano perché ha fatto campagna elettorale insieme a Monti, ci mancherebbe altro. Vabbè, Sciana, ma lei in che mondo vive? Ma lei in che mondo vive? Io vivo nel mondo di adesso, nell'Italia di adesso. No, lei vive nel mondo dell'iperuranio. Lei vive nel mondo dell'iperuranio, nel mondo dell'irrealtà. No, sei tu che fai le crociate per non finire il crocifisso, mio caro, perché non sai resuscitare. Ma che sta dicendo? Ma Fini sarebbe l'uomo di questo momento. Non so resuscitare. Ma che sta dicendo? Sì. Certo che Fini si è ridotto a avere elettori così e si capisce com'è finito. Cioè. Ma però potrebbe essere utile perché potrebbe arredare il Quirinale con l'IKEA, quindi con un bel risparmio. Questo non è sbagliato. Perché dici? No, è dato l'IKEA, no? E quindi se va al Quirinale userà lo stesso criterio di come sta arredando casa sua, applicherà una spendi, potrebbe essere un bellissimo segnale di avere Fini che smantella il Quirinale oppure porta il Quirinale a Monte Carlo, bellissimo, vive la casa dove c'è già riduzione dei costi. Cioè non più a Castel Porziano ma a Monte Carlo, dici? No, ma che senso, anche se in un'epoca come questa Castel Porziano, casa di Monte Carlo messa a disposizione lì come nuovo Quirinale, bellissimo. Stefano, provincia di Rimini. Sì, buonasera Cursani. Complimenti per la trasmissione. Io volevo condannare il comportamento di Pannella e di tutti come lui. Sì, condannare, nel senso che mi meraviglio del suo acume politico, innanzitutto, perché è una persona che fa da sempre in politica, come fa ad appoggiare certe richieste sui detenuti quando il paese è allo sfascio. Ci sono cose molto, molto più importanti. Certamente i detenuti hanno i loro diritti. Come tante vabbè, quella è una battaglia storica dei radicali, condivisibile o meno, non è che non si può fare questa battaglia, adesso non esageriamo. Lui si occupa dei diritti dei detenuti, vuole l'indulto, vuole l'indulto, l'amnistia, quello che è, per svuotare le carceri. Io sono contrario, per esempio, a questa cosa qua, contrarissimo a questa cosa. Ma anche questo è il tema, è che ieri non era questo il tema. Ma no, cioè, ma chiaro che non era quello il tema. Io, tra l'altro, non mi sono arrabbiato per quella frase. Risentiamo l'ultima frase, quella di Pannella sui carcerati, sì, su. Sì. Voleva fare un appello. Io non voglio che le persone facciano un appello. Mi dà fastidio, sono padrone o no, di decidere i tempi di questa maledetta trasmissione. Sono padrone e uno qui non viene a fare gli appelli, se ne va da Radio Radicale. Datemi la nota del Quirinale suonita. Voglio dire, mi fai fare una, parlare fare cosa, un no? appello. Ma che appello? Mi fai Radio Radicale gli appelli? Un appello di un minuto. C'hai una radio a disposizione. Ma non è Radio Londra. Alla comunità penitenziaria. Ma non me ne frega un cazzo. No, dai, no, dai. Non me ne frega un cazzo. No, Marco! Ma perché? No! A te, no, c'è il... Ma scusa, ma io dico che ragazzi, mandate un po' di musica, dai. Beh, danzano come zanzare queste ombre. Oh, ringrazio l'amico Giglioli, ringrazio, non c'è bisogno di ringraziarlo. Ovviamente Giglioli, su molte cose siamo in dissenso. Piovono rane. Sì, belle che cose. Sul blog dell'Espresso ha scritto anche con un paragone improprio, bisogna dire, ma è il principio che conta, non la persona. non è che mi ha paragonato ad Assange, no, però ha detto una cosa interessante: se a pubblicare spifferi Assange trattasi di eroi, se invece si tratta di Cruciani è una merda, che è un po' quello che abbiamo detto stasera. Io questa cosa qua ovviamente la condivido, ed è così, perché spesso quando abbiamo smerdato persone che non appartengono al circolo culturale, al solito giro, ci sono stati i complimenti, quelli che abbiamo raccontato, quelli che ci sono arrivati. Io ti dico, forse farò i nomi prossimamente di tutte le persone, tutti i politici anche giornalisti, notoriamente di area di centrosinistra, amici miei carissimi, ma anche politici di centrosinistra, che dopo lo scherzo a Cosentino mi hanno telefonato dicendo divertentissimo, dopo lo scherzo a Maccari, al direttore Maccari che era appena stato nominato, mi hanno telefonato per farmi i complimenti per quella cosa, persone di sinistra. E non hanno mai detto, beh, però non si fanno gli scherzi così, non si estorcono le dichiarazioni così. E devo dire, il signor Maccari, mai. Al signor Maccari, non perché la cosa debba venire in mente al signor Onida, per carità, mai è venuto in mente, beh, no, facciamo una denuncia nei confronti di chi fa gli scherzi telefonici. È stato zitto. Giampaolo Vanoli, buonasera. Buonasera, carissimo. Caro Giampaolo, come stai? Mancava molto solo bene, lui, sempre pimpante. Perché mancava solo lui? Parenzo, che c'è? Dimmi, perché? Mancava solo questo personaggio incredibile, che una famiglia veramente... Guarda, non fa piacere. Vediamo oggi cosa inventa la famiglia del signor Manoli. Lì. Dai, Parenzi, vai dal tuo rabbino, fatti istruire un po' dall'ortodossia. E imparerai cosa significa la parola cazzo, dai. Bravo. Ma scusi, che c'entra adesso la che parola? Che bella famiglia. Ma perché la famiglia stai mettendo in mezzo il signor Vanoli? Scusa. Che bella famiglia che ha quello. Scusi, signor Vanoli, ma sua moglie beve ancora l'urina? No, serve, ve l'ho già detto altre volte, sì. Noi la beviamo solamente quando necessita. No, d'accordo, ma non è un periodo in cui necessita l'urina? In questo momento no, stiamo ma bene. State bene. Perché che c'è? Perché che schifo? Perché dici che schifo? Ma io non voglio incontrarlo neanche se cammina sul mio marciapiede, cambia marciapiede. Parenzi, ricordati che la tua Torah ne parla. Ah, proprio dell'urina. Che dice sull'urina la Torah? Dice esattamente che invece di abbeverarsi alle fonti altrui, devi abbeverarti alla tua di fonte. Ma così dice la Torah? Sì, esatto. Non è la Torah, sono i profeti a dire il vero, è la Torah, sono i primi cinque libri dell'Antico Testamento. Ma è vero o no questa cosa? Che sai. Ma che? Ma dai retta uno che beve. Ma vai dal tuo rabbino! Ma vai da un ortodosso, non dal rabbino qui, all'acqua di rose. Vai da quelli che sanno e conoscono anche un po' di Kabbalah, così imparerai qualcosa di più. Come ebreo, praticamente, e mi dispiace dirtelo, ma non manifesti il vero ebraismo, la spiritualità dell'ebraismo. Ma in adesso te. Mi devo far insegnare le cose da un bevitore di piscio. Ma di che stiamo parlando? Le zanzare di casa mia si nutrono di me, quando il giorno scivola via si svegliano per me, quando tutto sembra poesia la cruda verità. Mi scrive un ascoltatore: io appassionato di corse con qualche problema di insonnia bevo spesso la mia urina e mi aiuta tanto. Andrea da Roma. Mi adorano perché abbandono il mio corpo. Ha capito Vanoli? Purtroppo vedi, Un attimo solo, Giampaolo, scusa. Sì, pronto? Fulvio di Cosmo? Sì. Buonasera, la Zanzara, Radio 24, mi scusi. Buonasera, lo sento pianissimo. Lo so, adesso cerchiamo di migliorare. C'è anche Parenzo, buonasera. Buonasera. Senta, ma che è successo? Lei è candidato per il 5 Stelle in Friuli, ma l'hanno espulsa dal 5 Stelle perché è massone. Ma non mi hanno espulso, mi hanno detto di non continuare la campagna elettorale con loro e in caso di elezione di non sedere nel loro gruppo consigliare. Quindi se vuole sì. Beh, l'hanno cacciata. Ma scusi, però era chiaro dallo statuto che lei non poteva iscriversi in quanto massone. Poi lei, scusi, a che loggia è iscritto, per curiosità? Una loggia del Grande Oriente d'Italia, sì. A Trieste. Ma detto questo, no, non era chiaro dallo statuto, nel senso che nel non statuto loro si sono appellati a un articolo, che è il numero 5, che dice che non bisogna essere iscritti ad associazioni o partiti con interessi diversi da quelli del movimento. Ma voglio dire, possono essere le cooperative operaie, che ne so io, può essere tutto. Vabbè, però è chiaro, è chiaro che sì, però insomma, diciamo la verità, qui c'è un articolo che prevede espressamente, se non sbaglio, articolo 5 del nostro statuto, il movimento aperto ai cittadini italiani maggiorenni che non facciano parte all'atto della richiesta di adesione ai partiti politici o associazioni aventi oggetto finalità in contrasto con quelli del Movimento 5 Stelle. Lei dice che l'hanno cacciata ingiustamente? Ah, io dico che mi hanno cacciato in parte dei pregiudizi. L'hanno cacciata, scusi? In base a dei pregiudizi. Ah, in base a dei pregiudizi. Se secondo lei si può essere grillini e anche massoni senza problemi? Sicuramente sì, nel senso che la massoneria, almeno quella che conosco io, non è altro che un'associazione in cui si va a fare filosofia. No, no, no, ma per carità, ma guardi che secondo me lei ha perfettamente ragione, eh? Cioè non vedo perché ci debba essere... Non voglio... Le sto spiegando la mia posizione, cioè. No, no, no, no, ma bisogna vedere se era previsto espressamente il fatto che l'adesione alla massoneria aspetti che sento un rumore tremendo. Scusi un attimo, perché sento un vento. Che c'è vento? Che è successo? Sì, c'è vento, io sono per strada a Trieste, c'è vento. Trieste è una città ventosa, una città ventosa. Conosciamo bene Trieste. Oggi praticamente Trieste è uno, no, è protagonista di questa giornata politica con questo scherzo organizzato dal nostro amico Andro Mercù, insieme a noi ovviamente, a Margherita Hack, per cui insomma Trieste forever. Scusi signor Di Cosmi, io non capisco una cosa, cioè secondo lei essere della massoneria è come Parenzo, è come far parte di una bocciofila? Come far parte di una bocciofila? La bocciofila fa sport e la massoneria fa filosofia, ma è uguale. Vabbè. Ma dov'è? Dentro un fan? Dov'è? Cos'è questo tipo della partitocrazia? Sento un vento pazzesco. Adesso proviamo a richiamarla, signor Di Cosmo. Ma lei, come le è arrivata questo provvedimento di espulsione? L'ha chiamata qualcuno? Una mail? Come è successo? A un colloquio in un bar. Come un colloquio in un bar? Con chi? Con... dei rappresentanti di Casaleggio. Ah, dei rappresentanti di Casaleggio. Come si sono presentati i rappresentanti? È curiosa questa cosa. Sono i due consiglieri comunali di Trieste che, essendo in contatto e facendo da trade union con Casaleggio, hanno detto di averci parlato e che lui ha dato questa indicazione. Ma lei non mi pare particolarmente affranto da questa cosa, cioè se ne frega totalmente, cioè continuerà a fare campagna elettorale praticamente per se stesso. Io, la mia posizione è questa. Mi dica. A me di fare il consigliere regionale. Faccio, sì, ma non è che fosse la mia ambizione. Io ho cominciato l'avventura perché entrato nel gruppo, sì. Ho cominciato a fare un lavoro e poi una cosa ha tirato l'altra. Detto questo, se comincio una cosa mi piace finirla. Sì, sì, allora? La posizione che mi hanno posto è stata quella: tiri oppure continui e se vinci vai nel gruppo misto. La mia posizione è: io non mi ritiro, perché se mi ritirassi confermerei di aver fatto qualcosa di illecito indirettamente. No, cioè questo lei dice non c'è nulla di male ad appartenere a una loggia massonica, quella del Grand Oriente per esempio. Esatto. Cioè si può dire che in qualche modo c'è coincidenza tra quello che pensa Grillo e quelli che sono gli insegnamenti di una loggia come quella del Grand Oriente? Ma io di quello che pensa Grillo, onestamente, diciamo che nel Grand Oriente i momenti fondamentali sono quelli della libertà, della tolleranza, del reciproco dialogo. Quindi credo che siano difficilmente, come dire... in questo caso, diciamo, difficilmente? Censurabili. No, voglio dire, in questo caso forse la loggia massonica è più aperta rispetto al modo in cui Grillo e Casaleggio governano i 5 Stelle, o no? Ma questo non lo posso dire, io posso dire che nella loggia massonica ho sempre trovato un ambiente molto... Molto? Molto pulito, molto pulito, cioè Vabbè, molto pulito, cioè non è più democratica del 5 Stelle la loggia massonica. Ma sono due sfere di influenza completamente diverse, è difficile fare un paragone. Parenzo, dove sei? No, dico è più sono sul taxi, ma dico è più democratica dei 5 Stelle la loggia. Scusi, non perché sentito. Almeno perché è più democratica secondo te, scusa? No, non ho detto questo. No, Parenzo. Ma è evidente che è più democratica, ma proprio perché lì uno sceglie quel meccanismo là in cui comunque non c'è uno vale uno lì c'è il gran maestro, c'è il gran maestro, il compasso, il cappuccio, tutte le cose, le regole, e lì è così. Il Movimento 5 Stelle ha questa idea della democrazia dal basso che è completamente antitetica rispetto alla loggia massoni. Un massone serio mai direbbe no, adesso votiamo il gran maestro online. Ma quale gran maestro online? Non è possibile. Mentre lì è una fiction, c'è una fiction di falsa democrazia diretta per cui tutti in rete, chiunque può votare. Invece non è vero. Scusi, è una Grillo, bufala. Ma ha saputo di questo grillino che avete? Perché avete espulso questo signore massone? Scusi, Grillo. Ma perché è un criminale. Ma come è un criminale? È una persona criminale come voi. È una persona morta. Non si può appartenere. Movimento 5 Stelle, il popolo del web ha deciso che deve essere cacciato. L'abbiamo mandato via. Io e Casaletto. Ma quale popolo del web? Non c'è stato nessun popolo. Il popolo, la rete, chiunque può votare con un click. Bisogna anche dirlo in questa radio della Confindustria. Basta con le fabbriche. Questo squint. Ma cosa produce? Non serve a... Adesso, è vero che non c'entra col tema che lei mi sta proponendo. Però vediamo. Le fabbriche sono la morte, inquinano. Ma come le fabbriche inquinano? Ma inquinano. Non è vero. Inquinano. Uno deve bere del piscio, deve bere il piscio, uscire di casa a piedi. Gli operai, ma perché vanno in fabbrica? Sono morti gli operai, sono finiti, morti. Scusi, Vanoli? Andiamo a parlare di cose un po' più serie, più interessanti. Ecco il genio del piscio. Sentiamo il genio di del Cosmo, piscio. Grazie intanto, di Cosmo. Prego. Auguri, auguri, sì, mi raccomando. Faccia una bella campagna elettorale. Dica che criminale lo dica suo figlio. Chi criminale? Non so, mi è sembrato di sentire. Ma no, mica era diretto a lei criminale. Ah, ma okay. No, era un finto Beppe Grillo. Era un finto Grillo. Era un se finto. Se sarà anche lei, hashtag tutto finito. Amico mio. Non ho capito perché io sento pochissimo. Capito? Un abbraccio, arrivederci, caro Massone. Massone Grillino, numero uno assoluto. L'hanno cacciato via subito. Vanoli, ma sto Grillo è tremendo. Siamo Vanoli. Ancora Vanoli. Lì, questi sono altri fatti. Io vado alle cose essenziali della vita. Ma qual è la simbologia? Mi parli della simbologia, la simbologia del sesso. Prima lezione del professor Vanoli, la simbologia del sesso. Allora, che cos'è il sesso se non l'unione di due forze, una maschile e una femminile, unendo si formano la vita che si protrae verso l'infinito. D'accordo. E questa è la sintesi, però adesso entriamo nei particolari. Allora, abbiamo detto l'altra volta che il cazzo è il simbolo della volontà che si deve erigere per poter ottenere, concentrando l'energia in un punto, in modo da poter eseguire ciò che si vuol eseguire. Va bene, invece... un progetto, l'oggettivazione di un qualche cosa, di un desiderio. Beh, vediamo, un po' complessa la cosa, comunque si è capita. Poi? Allora, la vagina, cioè la fica, perché si chiama fica chiamiamola, in realtà. Chiamiamola come... questo è il suo nome, intendiamo, ricordiamoci che uno dei principi dell'umanità è quello che si lavora e si fatica per il pane e per la fica, È tutto la vita è tutta qua. Non ho capito, signor Vanoli, lei che è un professore, un giornalista investigativo di Segrate. Ma giornalista investigativo di che cosa? Frequentatore di Meetup, eccetera, eccetera. Un frequentatore di figa, bene del piscio, non è un giornalista investigativo, la Vanoli è investigativa, basta! Non possiamo mandarlo davvero da un rabbino che gli insegna poi i significati delle parole. Però Parenzo, cerca anche di connetterti meglio col telefono, se no non capiamo. Ho detto che non devi mai più chiamarlo giornalista investigativo, perché giornalista investigativo è la Gabanelli, non uno che beve piscio e parla di fica. Basta. Scusi, Parenzo. Si può fornire un argomento, dipende quale. Io mi interesso di medicina naturale, sì. E nella medicina naturale si approfondisce le funzioni e il simbolismo del corpo e ovviamente, certo, del sesso, che è la sintesi invece del corpo, perché tutti siamo attratti, nasciamo da questo buco e ritorniamo in un buco alla morte, e di conseguenza nasciamo attraverso l'unione di queste due forze complementari, il maschile e il femminile. Che sarebbero, sì? Allora, vogliamo capire che la funzione del sesso è semplicemente spiegare agli uomini, sì, che masturbandoci, ereggendo il pene o il clitoride, sì, e unendo i due sessi, sì, noi andiamo a esemplificare ciò che la vita rappresenta, cioè le esperienze della vita. Così, infatti entriamo, sì, ed usciamo dalla vita attraverso le sue esperienze per arrivare all'orgasmo. Che però sono... sì, d'accordo, però signor Vanoli, lei queste ogni tanto le è andata a spiegare ai grillini del meetup queste cose? Non ci sono arrivato fino a queste cose. Ah, però ci arriverà. No, non mi interessa, io me ne sono andato quando loro hanno voluto espellermi. Ma hanno cacciato pure lei, Vanoli? Vabbè, certo. Ma quando l'hanno cacciata? Beh, 10 giorni fa. Dopo... Beh, questa è una notizia, hanno cacciato il signor Vanoli, traffico. Beh, certo. Ho in collegamento speciale con Oslo, Norvegia, ma che sta a fa Oslo? Vladimir Luxuria, buonasera. Sto a surgelare, mi hanno detto che il surgelamento fa bene alla prevenzione delle rughe. Beh sì, è vero, il freddo, molto freddo, fa bene alla pelle, signora Lussuria, è vero. Ma lei ha bisogno di proteggere la sua pelle oppure no? Ne abbiamo tutti bisogno. Vorrebbe tornare più giovane di una decina d'anni, mi dica la verità. Ma non va... basta difendersi dal tempo, ma io sto bene così. Però voglio dire, come dire, la natura è stata molto generosa con me, però come dire, va aiutata. Hai capito, Parenzo? No, ottimo, bravissima, che è buddista, tra l'altro, adesso è diventata Vladimir, ho letto. No, da 15 volevo... anni che è buddista, adesso ha fatto questa intervista, allora uno dice buddista, ma è 15 anni che è buddista. Beh, scusi. 15 anni adesso, magari non 15 proprio. Sì, da quando è che è buddista lei, signora Lussuria? Ah, è vero, è più di 15 anni. Sono una persona abituata a rispondere alle domande, una giornalista mi ha fatto delle domande sulla mia dimensione spirituale, non mi sono... Non si è tirata indietro. Perché va molto di moda ultimamente tirarsi indietro le domande, scrivere i giornalisti. A noi lo dice, a noi. Io sono anticonformista, capito? Spaccare tutto come i Sex Pistols in uno studio. Io sono più calma, più tranquilla, rispondo tranquillamente anche alle provocazioni. A noi lo dice. Guardi, è due giorni che siamo qui. Prima Pannella ci ha spaccato, anzi no, prima è successo un casino per uno scherzo telefonico che abbiamo fatto, perché ci fa anche piacere suscitare casino. Dopo quello ci ha spaccato lo studio, perché abbiamo osato dire, scusi, forse non è che la Bonino è così popolare come dice lei nella politica italiana, o comunque tra i cittadini italiani, ma successo il finimondo. Lei vedrebbe bene la Bonino al Quirinale, signora Lussuria? Sì, a parte che devo dire che ho fornito oggi un argomento di grandi risate anche qui in Norvegia, perché quando ho spiegato ai miei amici che quello che era successo ieri alla Zanzara, hanno effettivamente detto che la politica italiana offre sempre dei grandi argomenti di hilarità, mettiamola così. Per quello che riguarda la Bonino, io sono da molto tempo ho detto che la Bonino sarebbe per me, lo dico quello che riguarda una candidata a essere una buona presidentessa della Repubblica. Cioè lei la voterebbe se ci fosse l'elezione diretta del Presidente della Repubblica? La voterebbe. Beh, io Napolitano l'ho votato perché quando nel 2006 lei era in Parlamento. Parlamentare. Ma le piacerebbe tornare? Mi dica la verità, io lo so che le piacerebbe tornare in Parlamento. Guarda, io sono una di quelle che non ha la sindrome del culo che mi manca la sedia, cioè ho la poltrona. Io continuo per fortuna a fare tante cose nella vita e avere il mio spazio. La televisione, poi, cioè però la politica... Ma poi, scusami, questo scenario politico, dove vado? Cioè, non ci vorrebbe un transessuale al Quirinale, non perché... Beh, bello sarebbe. Bene, sarebbe straordinario. Cioè, perché metterebbe insieme... Tu dici come passaggio meno traumatico da un uomo a una donna? Sì, la perfetta sintesi di quelli che vogliono una donna al Quirinale, però diciamo anche un'identità maschile, e sarebbe una sintesi perfetta, una sorta di bicameralismo, come si può dire, bisessualismo perfetto, ecco, anziché bicameralismo perfetto. Facciamo un'altra cosa allora, io candido la Bonino al Quirinale, sarebbe una grande rivoluzione avere una donna al Quirinale per la prima volta, io mi candido d'accordo. Invece a fare la corazziera, una bella coda di cavallo. La corazziera Vladimir Luxuria, senti poi alla fine... Allora io la Bonino al Quirinale, la Bonino al Quirinale con un po' di tacchi io a fare la corazziera della Bonino. Senti Vladimir, scusa, ma alla fine diciamola tutta, l'operazione non l'hai fatta. Quale operazione? L'operazione che la notte ne abbiamo parlato qui in diretta, no? L'operazione è lì, insomma, quella roba là. Dai su. Ma guarda, l'ho spiegato. C'è stato un periodo di tempo nella mia vita in cui ho pensato di farlo. Esatto. E poi dopo ci ho ripensato, sinceramente, perché insomma non è mica come andarsi a fare la permanente, che poi su dopo dici, no, non ritorno liscia. Su questo non c'è dubbio. Alla fine ho pensato che fossi bella così come sono, cioè che stessi bene così come sono, che non ho bisogno di togliere il pisello, dai, diciamo la verità. Ma non la mettere così, perché vabbè, ma non c'è niente di male, scusa. È anche un'aggiungere. Come aggiungere? Perché toglievi e aggiungevi, dici, vabbè, sì, certo, no, per carità, però di togliere, quello, diciamo, lì c'è un... Ma in questo periodo, con tutti i problemi che abbiamo in Italia, secondo te qualcuno gli può fregare qualcosa? Parenzo, che dici tu? Secondo me sì. Senti, però io sono curioso di chiederti una cosa. In questa intervista che hai fatto ad oggi, dici anche che hai avuto una cosa che si sapeva, un legame con un parlamentare. Ovviamente non direi mai chi è questo parlamentare. Si può dire o no? Se avesse detto chi ha messo incinta la cameriera, io avrei detto con chi ha avuto. Ho avuto un legame temporaneo con un uomo della politica, sì, è vero, è successo, è finita. Ma uno tuttora in Parlamento? No, non in Parlamento. Non è più in Parlamento. Tuttora non è in Parlamento. Ma comincia il gioco di restringere il cerchio, perché ti conosco, mascherina. Un po' sì. C'è della sinistra o del centrodestra? C'è un po' Monella, sì. Sinistra o centrodestra? Sinistra o centrodestra? Senti, ma dimmi la verità, ancora ricevi proposte da parte di uomini della politica? Sì, quello lo so. Quello lo so. Ho avuto lì, per forza, ho 47 anni. Qualche colpo in canna ancora ce l'ho da sparare. Cioè, dici, non adesso... frequento altri ambienti, perché sai, poi che ambiente frequenti, scusa. Dipende anche dagli ambienti che frequenti, certo. Quando sei parlamentare, sei in Parlamento, è più facile che ti si avvicini a un parlamentare. Adesso io i parlamentari non li frequento. E adesso chi frequenti? Quindi, scusa, sono un po' nel mondo dello spettacolo. Un'altra cosa. Vladimir, ci vieni a trovare in studio quando torni in Italia, questo Oslo, basta, in Norvegia un freddo pazzesco fa, cioè già fa freddo, sì, qui in Italia, vienici a trovare presto, dai, freddo. Ciao Vladimir, ciao. Giampaolo. Ho sentito quello che avete detto con... Anch'io la voterei se fosse un candidato a presidente della Repubblica. Sì, la signora chi? La signora Lussuria? Certo. E come mai? Perché ritengo che sia una persona che ha una certa intelligenza e la dimostra anche nei fatti. Ma com'è quella cosa? Viviamo a pane? Allora, la sai anche tu. Il vecchio detto del volgo: si lavora e si fatica per il pane e per la fica. Non l'ho inventato io. Si lavora e si fatica per il pane e per la ficca. Parenzo, di qualcosa, ti prego. Fammi dire che è veramente una brutta persona. Guarda, mi sono fatto un quadro pessimo. Lui beve il piscio, fa il 69 e lecca la moglie, non ho capito dove, neanche mi interessa. Ha i figli, ha imposto di bere il piscio e si lamenta perché dice che si ammalano ora che non lo bevono. È una brutta cosa. Questo l'hai detto tu, perché io non impongo niente a nessuno, neanche ai miei figli. Hanno fatto quello che hanno voluto quando hanno deciso di farlo. È orripilante. Vabbè, ma perché quello è orripilante? Che avviene lì dentro è orripilante. Ma lì dentro dove? Vabbè, sì, Giampaolo, mi scappa da ridere. Questo è un ebreo che non è ebreo. Ma perché ti hanno cacciato? Perché ti hanno cacciato dal 5 Stelle? Perché ti hanno cacciato dal Meetup? Ma è semplice. Quando io ho proposto la storia sui vaccini, Ecco che ho avuto i primi ostacoli. I medici. Beh, ti credo, hai detto, Vanoli, hai detto che i vaccini fanno diventare gay. Fanno anche diventare. Ho capito, ma è una follia. Solo. Dai, Giampaolo, questa oggettivamente è una mezza follia. No, neanche per sogno, io sono pronto a dimostrarlo in qualsiasi consenso. Beh, la prossima volta vieni qua. Anche i meccanismi. La prossima precisi. Volta vieni qua e mi dimostri perché con i vaccini uno può anche diventare omosessuale. Ma volentieri, volentieri. Bene, a presto, devo lasciarvi, Parenzo. Ti mando quello che riguarda questo argomento. Va bene, mandami tutto. Mandami tutto. Ci sentiamo quando ci sentiamo? Lunedì, se siamo ancora vivi. Lunedì, 18:30. Ciao, ciao. È come Grillo da questo punto di vista. No, è identico a Grillo. No, identico no. A Grillo. No, no, uguale. No, Marco, e tu sei stronzo come solo tu lo ma sei perché? Divenuto. Su questo non hai tutti i torti, su Pannella. Però su questo io mi sento di appoggiare Pannella. Su questo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Ma perché vi arrabbiate? Ma siete stati meravigliosi! Radio 24. La passione si sente.